si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Quello che il mondo di strato non ti dà, te lo vendo. Noi qui sentiamo dire, sentiamo parlare di insopportabilità del numero di accoglienti o di richiedenti asilo da noi. Secondo me questo è un atteggiamento che viene in questi giorni purtroppo alimentato da questi quattro piazzisti, da quattro soldi, che pur di prendere voti, di raccattare voti, dicono cose straordinariamente insulse. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, eccoci qua 18 20 e 30 con Si può fare, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, ai nostri contatti, tutti gli altri se volete interagire con noi da subito, fin da subito in tempo reale, la pagina Facebook Si può fare trattino radio 24, l'account su Twitter Si può fare 24, il mio Ale Maurizi. Quello che avete sentito era la voce di Monsignor Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, che a Radio Vaticana rispondeva così a chi? Ai piazzisti, quelli che lui ha definito i piazzisti politici, che nel fine settimana, come Grillo o la Lega, Grillo che ha detto stretta sui permessi per gli immigrati, o la Lega che con Salvini ha detto se li prende al Vaticano. Questa è la risposta, risentiamola, ce l'abbiamo Galantino, risentiamolo. Noi qui sentiamo dire, sentiamo parlare di insopportabilità del numero di accoglienti o di richiedenti asilo da noi. Secondo me questo è un atteggiamento che viene in questi giorni purtroppo alimentato da questi quattro piazzisti, da quattro soldi, che pur di prendere voti, di raccattare voti, dicono cose straordinariamente insulse. Politici in vendita che vendono loro stessi in cerca un po' di voti su questo tema dell'immigrazione. Insomma, uno scambio d'accuse che non ha niente di nuovo, per dire la verità. Semmai di nuovo c'è che chi, per esempio come Massimo Cacciari, PD, non forse esattamente uno tra i piazzisti a cui pensa Galantino, però sul tema dell'immigrazione dice il governo sta sbagliando parecchio. Sentiamo. Vuoi che ti dica come funzionavano le cose? Funzionano così. A un certo momento gli arriva, tre giorni prima, gli arriva un fax, una mail al prefetto di Italia Italia, e gli dice: ti arrivano 500 persone. Alla mattina presto in una piazza di qualche paese gli arrivano i torpedoni e i prefetti lì per lì devono vedere dove collocarli. C'hai una casa sfitta? C'hai un condominio sfitto? C'hai un albergo possibile? A caso! Perché prima non si era fatto alcun piano di collocazione di sta gente. Chi invece sicuramente è un fiancheggiatore dei piazzisti, secondo il segretario generale della CEI Galantino, è uno come Feltri. Sentiamo. Farò di te un varo. Perché pare, dalle parole del Papa, che noi italiani siamo pronti ad accogliere, che so io, 700.000 profughi al giorno, e poi gli diamo una bottiglia di acqua minerale e un pasticcino e poi li ributtiamo in mare. Bene, è una palla, e non è verità, è un fallo. Io piuttosto, se mi è consentito, chiederei a Papa Francesco quando mai ha visto in Italia i nostri marinai, i nostri poliziotti ributtare in mare degli immigrati che riuscissero a mettere piedi sul nostro territorio. Dall'immigrazione alla Sicilia, Feltri a tutto campo, che evoca l'indipendenza della Sicilia dopo tutto il dibattito che c'è stato sul sud che non cresce, che cresce meno della Grecia, sul piagnisteo evocato da Renzi. No, non è un piagnisteo, ha detto Saviano, è giusto occuparci del sud. Alla fine Feltri dice se vogliono l'indipendenza che l'abbiano. Sentiamo. Effettivamente la Sicilia avrebbe il diritto di tenersi tutti i quattrini che produce e quindi andrebbe consentita una assoluta indipendenza alla Sicilia, perché è vero che la Sicilia è una nazione, quindi lasciamo che si autoamministri. Ma il circo vive senza di me. Ferma un istante, solo una domandina a crocetta, che, una domandina, bene, come mai in Sicilia non funziona un cazzo mentre in Lombardia funziona tutto? Mi spieghi questo? Ecco, allora, e non è vero. Sull'interrogativo di crocetta. Questo rimarrà. Comunque, Feltri, ci vediamo ancora, ho capito. Continua a avere sempre la piazza. Ho capito, le piace Feltri, va benissimo. La grinta che non hai. E infine, altro dibattito, altro tema di questa, diciamo, pausa della politica d'estate, che siamo lasciati con i 500 e rotti mila emendamenti da parte della Lega alla riforma del Senato. Qualcuno dice: caro Calderoli, questi emendamenti cadranno tutti con un colpo solo, con la tagliola di Grasso, che dirà sono tutti uguali, quindi in un minuto questa montagna di opposizione partorita dalla Lega si trasformerà in un topolino. Staremo a vedere se è così oppure se sul cammino del governo per la riforma del Senato ci sono davvero dei grossi ostacoli anche interni. Lo sapete, la minoranza del PD è contraria. L'opinione non convenzionale, diciamo così, di Cacciari. Si figuri all'opinione pubblica cosa gliene importa del Senato elettivo o no, ma si figuri che cosa gliene importa. Un'altra identità. Vi è in questo paese, da 20 anni a questa parte, una chiara tendenza anche dell'opinione pubblica per giungere ad una soluzione istituzionale di tipo presidenziale. Prendiamo i francesi, prendiamo gli americani, prendiamo chi vogliamo, ma questa è la tendenza fondamentale, che Renzi la percorra con coerenza, non in modo abborracciato e infantile come sta facendo. Se questa è la sua cultura, bene, la percorra con coerenza, sì, dice, facciamo non, un sistema non presidenziale. Facendo un senato dimezzato o altre scusi puttanate di questo genere, la percorra con coerenza. Svelato una cosa che molti sospettavano, che gli stipendi dei dirigenti sindacali, di alcuni dirigenti sindacali, sono più simili a quelli dei consiglieri d'amministrazione delle aziende che i sindacati dicono di combattere, che non più simili agli stipendi dei lavoratori che invece difendono. CISL, scoppia il caso dei mega stipendi. A farlo scoppiare Fausto Scandola, dirigente della CISL di Verona. Buonasera. Buonasera. Lei che ruolo svolge o svolgeva nella CISL? Perché quel allora, che sappiamo... nella CISL io ho fatto, a parte il delegato sindacale e via dicendo, io ho fatto il segretario generale della Fisasca CISL di Verona per 10 anni. Sì. E poi sono stato per 6 anni e mezzo segretario organizzativo e amministrativo della CISL, dell'UST, della CISL provinciale. Ma è vero che ha ricevuto una lettera dopo che ha fatto, diciamo, filtrare questi dati sugli stipendi? No, non è che ho ricevuto una lettera, ho ricevuto la decisione dell'espulsione dalla CISL. È stato espulso subito, sì, dopo il 29, no, adesso se un attimo, io sì. Allora, se posso, ho inviato una lettera riservata personale, sì, al segretario generale della CISL Anna Maria Furlan, e l'ho inviata il 13 aprile. Sì. E questa l'oggetto richiesta di dimissioni per incompatibilità morale e etica con chi rappresentiamo. Cioè lei chiedeva le dimissioni della Furlan, del suo, sì, segretario. La Furlan è il massimo responsabile della CISL. Scoppia il caso Bonanni, lei viene eletta al suo posto, sì, e giustifica tutto. Il caso Bonanni, ricordiamolo qual è stato, l'aumento di stipendio. L'anno scorso Bonanni è stato costretto alle dimissioni perché è uscito un scandalo, sì, non so quanto volontario o meno, e quanto nel senso che non ci sia che si sarebbe aumentato. Qual era lo scandalo? Però ricordiamo che si sarebbe aumentato lo stipendio prima di andare in pensione. E che si è costruito la pensione. E cioè che si sarebbe aumentato lo stipendio prima di andare in pensione in modo da avere una pensione, esatto, più alta. Esatto. E questa subentra, sì, e anziché dire ragazzi da oggi in poi giustifica tutto. Allora, dopo il caso Bonanni ho cominciato a informarmi e ho cominciato a vedere, ho letto per caso su il Corriere della Sera che al CNEL tardano a presentare i 7.30 e allora sono andato a vedere, so che ci sono parecchi dirigenti CIS nel CNEL, sono andato a vedere, sono andato a vedere, mi sono documentato, ho scaricato dal CNEL 7.30, quindi l'Anna Maria Furlan ora sa da dove ho scaricato i 7.30, sì, dal CNEL. Però poi dopo, Scandola, lei dopo aver fatto questo e dopo aver scritto alla Furlan per chiedere di dimettersi in quanto responsabile di quello che lei definisce uno scandalo, ha fatto, ha scritto ancora delle altre mail in cui pubblicava questi dati. Allora, questi dati, aspetti, questi dati che sono abbastanza, insomma, da sottolineare, perché se teniamo conto che per esempio lo stipendio di, del Presidente della Repubblica, Mattarella, mi scusi, è 240, mi scusi un attimo, Scandola, è 240.000 euro, noi abbiamo stipendi di alcuni dirigenti della CISL che sono più alti di quelli del Presidente della Repubblica, 250, addirittura si arriva quasi a 300.000. Resti un attimo con noi, dobbiamo fare il traffico, poi torniamo con lei. L'autore di questa, diciamo, denuncia, che dopo averla fatta poi è stato dimissionato dalla CISL. Tra un attimo, traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Male. 800 24 00 24, cari ascoltatori, è giusto che un dirigente sindacale della CISL in questo caso guadagni più del Presidente della Repubblica Mattarella, cioè oltre 240.000 euro, alcuni stipendi fino a 300.000 euro? Il caso lo ha fatto scoppiare Fausto Scandola, dirigente della CISL di Verona, che è qua con noi. Lei ci ha già risposto, no, non è giusto, infatti è per questo che lei ha fatto uscire. Perché secondo lei non è giusto che un sindacalista guadagni? Perché uno potrebbe dire sono dirigenti e si confrontano con dirigenti. Il problema è che, nel senso, non dobbiamo dimenticarci che siamo un sindacato e che le risorse che servono per questi stipendi vengono dagli stipendi medi degli operai italiani, che sono di 23.913 euro lordi annui. Lei si è tirato giù proprio la cifra dell'Istat, 23.000? Esatto, e le pensioni al minimo di 6.524 euro all'anno. Anzi, noi che tra l'altro Scandola, che i pensionati forse sono quelli che in proporzione contribuiscono anche di più, perché sono tanti, certo, iscritti, certo, al sindacato. Il 50%, quindi sostanzialmente il sindacato non può dimenticare quando usa le risorse da dove vengono le risorse. E quindi è gente che si priva per pagare l'adesione al sindacato e questi meritano rispetto. Infatti nella mia lettera alla Furlan sono profondamente indignato, dico, sì, ritengo morale, etico, ingiusto, non ritengo morale, etico, giusto l'utilizzo che i dirigenti di questa organizzazione fanno delle risorse provenienti dalle adesioni dei lavoratori. Poi ci sono anche dei contributi pubblici probabilmente che hanno i sindacati. A parte di quello, che non è che sia il discorso, i contributi vengono ai dirigenti, non all'organizzazione. Sì. Poi il 1° maggio, siccome lei non mi ha risposto. Lei non ha mai risposto alla Furlan? Mai, alla sua lettera. Mai. Il 1° maggio io invio un'email a parte dell'esecutivo nazionale, quindi lo mando a tutta la segreteria confederale, sì, più ai segretari generali di tutte le categorie delle federazioni della CISL, più ai segretari generali delle CISL regionali, e invio allegando la lettera, e faccio due esempi. Faccio l'esempio del segretario del presidente dell'INAS, che prende quello sì, e dell'ex presidente del CAF nazionale, presidente dell'INAS Antonino Sorgi, che prende e l'ex presidente del CAF Valeriano Canepari, sì, e mettendo le cifre che prendono, diciamolo, lo ricordiamolo, perché il presidente dell'INAS CISL guadagna 256.000 euro in virtù del fatto che cumula 97.000, che cumula una pensione e due incarichi. Allora, compenso dall'INAS immobiliare 100.123, sì, e dall'INAS immobiliare 77.900. Tra l'altro, scusi, tenga presente, sì, che questi dati non sono veri, perché nessuno me li ha contestati. Ma siccome poi, quando io ho cominciato a mandare questi mail, c'è stata gente che mi manda a casa, o via anonima, o documenti. Per cui, cioè, l'aiutano a far crescere questa denuncia. Ci sono iscritti al sindacato che sono d'accordo con lei. Certo, non c'è, ma scusi un attimo, ma come tanti iscritti al sindacato che sono iscritti con lei. Lei dice la maggioranza saranno d'accordo con lei. Ma non c'è dubbio. È il gruppo è parte del gruppo dirigente. Ma senta una cosa. Allora io faccio questa lettera, mando la lettera a questa gente, nessuno mi risponde. Allora, questo è il 1° maggio, l'11 maggio parte il ricorso del Furlan, firmato da tutta la segreteria confederale, quindi la Furlan più 7. Vabbè, il ricorso nei suoi confronti, adesso non ci faccia entrare nei meandri del contenzioso tra lei. Mi scusi un attimo, Scandola, risponda a questa. Cioè, lei ha ricevuto una prima minaccia, diciamo. No, minaccia, un differimento, un avvertimento alla magistratura interna veneta. Esatto. La magistratura interna veneta esamina. Perché lei avrebbe violato, scusi Scandola, lei avrebbe violato che cosa? Un codice deontologico? No, nel senso, mi sono espresso in termini non corretti nel giudicare, nel esprimere giudizi e lamentele al gruppo dirigente. Va bene, senta, però la Furlan in un'intervista di oggi su Repubblica dice che adesso però dice svoltiamo verso la trasparenza. Scusi, le dà in qualche modo atto che così non va? No, assolutamente, smentisco categoricamente e invito la Furlan a un confronto, nel senso, perché la Furlan non ha cambiato di quello che dice, che oggi cambia dicendo, sono pari parole come già previste nel regolamento 2008 e disattese. Cioè, dicono a parole una cosa e poi non la fanno, che faranno il contrario. Senta, tra l'altro, in questo caso si tratta a volte di cumuli tra stipendi e pensioni. Ora, siccome per i funzionari pubblici, per i dipendenti pubblici, ciò è vietato, le chiedo, secondo lei dovrebbe essere vietato anche per i privati, anche per i sindacalisti? Il regolamento non prevede il cumulo, anzi. Il regolamento dice che non può superare, al limite c'è il discorso della differenza. Ma un conto è quello che c'è scritto sui regolamenti. Sarebbe i regolamenti. Allora, intanto una distinzione tra l'organizzazione CIS e questa Gentaglia. Ok? L'organizzazione è un'organizzazione seria di cui io sono innamorato pazzo. Questa parte del gruppo dirigente è che non è adeguato, via dicendo. Ma è andata peggiorando negli anni? Prima non era così, le vecchie dirigenti. Quando c'era Marini non era così? Chiedo scusa, io prima che scoppiasse il caso Bonanni non pensavo che ci fosse tutto questo. Poi, è stato in quell'occasione che lei ha aperto gli occhi? Esatto. E un sacco di gente mi ha aiutato a aprirli mandandomi ulteriori documenti. E la Furlan, secondo lei, anche sta guadagnando troppo? Quanto guadagna, lo sa? Tenga presente che io ho fatto dei ricorsi ai provvedimenti in modo interni, magistratura interna, che vadano a verificare. Anche sulla Furlan ho presentato un ricorso, ecco forse perché mi hanno buttato fuori, perché la Furlan a me mi hanno riferito che negli ultimi anni ha sempre superato i 170.000 euro annui utili al calcolo pensionistico, molto lontano dall'attuazione del regolamento. Anche prima di diventare segretario? Oh, certamente. Quindi faceva parte anche lei di questo gruppo dirigente? Scusi, ma perché si accaniscono contro di me solo sul discorso della forma, rispettato l'articolo, ma non mi rispondono nel merito. Nel contenuto. Io tra l'altro dico che credo che quello che lei ha sollevato è una questione su cui si poteva rispondere e che non meritava assolutamente la lettera di licenziamento. Le voglio chiedere un'altra cosa però. Secondo lei questo fatto degli stipendi, cioè così alti, dei cumuli, anche andando contro quelli che sono i regolamenti interni dei sindacati, succede anche negli altri sindacati o è una piega che ha preso solo nella CISL? Cioè nella CGL no, è uguale, secondo lei? Per quello che ne sa. Chiedo scusa, io non in questo momento non voglio fare accuse che non conosco direttamente via dicendo, però siamo in Italia e il sistema che si è inserito nella CIR è il sistema italiano. Un'ultima cosa, Scandola, secondo lei si può, cioè lei pensa anche che questi stipendi così alti siano un freno all'azione dei dirigenti sindacali in qualche modo, cioè che diventa una specie di tradimento nei confronti dei lavoratori? Esatto, anche quello. Dove vanno quelli lì a percepire stipendi del genere? Ma dove? Ma chi sono? Sono sindacalisti, e perché il problema mio è che in questo momento, siccome il mio obiettivo, a parte che io non avrei voluto andare alla stampa, e nel senso solo però che l'ho mandato via alle strutture, e la prima che è uscita è stato Bergamo News, e poi da lì si sono attaccati tutti quanti via dicendo, ma non sono stato io a inviare alla stampa, e avrei preferito il discorso interno. Però, e quindi non mi va di aggiungere altri esempi. Va bene, va bene. Allora grazie, e staremo a vedere. Naturalmente, se grazie Scandola, Fausto Scandola, dirigente della CISL di Verona, se ci sarà una risposta, non direttamente a questo, ma alla questione posta da questo ex, a questo punto dipendente della CISL, sugli stipendi eccessivi, giudicate voi, più di Mattarella, qualcuno ha calcolato addirittura più dello stipendio di Barack Obama. 800 24 00 24, cominciamo con gli interventi degli ascoltatori. Gigi da Milano, buonasera. Pronto, tocca a me? Tocca a lei, Gigi, prego. Ok, ciao Alessio, grazie, ciao. Per la convocazione, oserei dire, i termini della, facendo una citazione, esatto, vai. Esatto, bravo. Ok, Alessio, senti, avevo alcune cose da chiederti e poi magari se vuoi mi rispondi per radio. Allora, la prima cosa riguardava la discoteca, me le sono segnate così non rubo tempo agli altri. Allora, la prima cosa era circa sulla discoteca, il problema del Cocoricom. Si è creato un problema che a mio avviso non è un problema, della serie, che so io, un sedicenne che perde la vita in una discoteca. Il problema non esiste se tu vieti l'ingresso ai sedicenni, ma se non altro in alternativa proporrei una campagna, passane una battuta che mi è venuta in mente spontanea, però te la dico, sì. A tutti i sedicenni gli direi, farei uno slogan di questo tipo: il tuo angolo di cielo deve essere un triangolo di pelo, lotta per avere quello. Non è elegantissimo, certo. Gigi, non è elegantissimo. No, perdonami, dai, però era giusto, sì. Era una mezza battuta, va bene. Passamela Alessio. No, grazie. No, te la passo assolutamente. Ripeto, mancava proprio di eleganza, però insomma ci sta. Però Gigi, volevi fare un'altra cosa? È caduto, va bene, grazie. 800 24 00 24, sulla discoteca l'ingresso è vietato ai minori di 16 anni. Personalmente non lo so, è la proposta di Giovanardi. Abbiamo sentito settimana scorsa uno che sicuramente non ha preclusioni negative nei confronti delle discoteche, come Pucci, lo storico buttafuori della Romagna, che era d'accordo. Può darsi, succede in alcuni paesi europei, credo in Spagna, da altre parti non c'è questo divieto. Può essere un'ipotesi, credo che vada affiancata sicuramente, ma ne parleremo tra un po' con l'informazione senza tabù, assolutamente, e anche la distribuzione ai ragazzi dei kit per fare il test sulle pillole, per vedere se sono pericolose oppure no, cosa che in Italia invece per qualche motivo non si fa. 800 24 00 24, torniamo tra po'. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, ci sono un po' di messaggi, diciamo, di sostegno a Fausto Scandola, il dirigente della CISL, che ha denunciato la questione degli stipendi troppo alti, secondo lui, dei dirigenti sindacali della CISL, tenendo conto che gli introiti, le risorse del sindacato sono le quote pagate dai dipendenti e dai pensionati, che hanno una media di 23.000 e di 6.000 circa rispettivamente euro lordi, e quindi poco. C'è chi come Fabio, per esempio, dice: io vorrei dare la mia quota sindacale per pagare lo stipendio di questo signore. Andiamo con Enza che ci chiama da Roma. Buonasera Enza. Buonasera a lei, a te, non so. È uguale. Ecco, ascolta, ovviamente sì, massima sì. solidarietà con l'ultima persona, col sindacalista, perché poi in fondo qui da noi scopriamo sempre l'acqua calda, no? Lo sappiamo perfettamente che i sindacalisti guadagnano quello che guadagnano, fanno come i preti, e io volevo parlare proprio fanno come mondo. I preti? Questo sì, è il paragone. Fate cioè che predicano io, bene e razzolano male. Anche, ma fate quello che dico io, ma non fate quello che faccio io. Io vorrei suggerire al Monsignor vattela a pesca, uno qualunque, tanto sono tutti sulla stessa condotta. Io dico, fatevi una passeggiata, io vivo a Roma, fatemi una passeggiata intorno al Vaticano, vedrete centinaia di strutture alberghiere, alberghi, bed and breakfast, case famiglia, case vacanze, che i preti, le suore gestiscono e a un prezzo nemmeno poi così equo, dove non pagano IMU, non pagano nulla. Allora, invece di battersi il petto e dire che dobbiamo fare accoglienza, ci mancherebbe altro, sono d'accordo, però sai quando potrebbero avere la mia approvazione sì. queste persone? Quando io comincio a vedere queste strutture senza turisti, bensì con tutti questi poveri disgraziati profughi che hanno bisogno. In fondo la Chiesa, il suo ruolo è quello, di dare un aiuto, e non di accumulare ricchezze su ricchezze, che le dico, per fare un esempio. Sì, però scusi, mi faccia dire, io su questo sono anche d'accordo con lei, soprattutto per chi vive a Roma probabilmente fa più effetto, perché di queste strutture della Chiesa ce ne sono tante, il Vaticano, e quindi si vedono questo turismo legato a Roma, al Vaticano e all'accoglienza del Vaticano, che è anche un modo per lucrare. Diciamolo della Chiesa è un colpo nell'occhio, però non dimentichiamoci che una parte di questi introiti poi vanno anche alle chiese locali in tutta Italia che fanno delle cose. Non si può negare che le chiese, tante chiese di periferia, facciano delle cose a favore non solo degli immigrati ma anche degli italiani. Io personalmente mi ci sono ritrovato per un periodo della mia vita a lavorarci quando ho fatto il servizio civile, posso testimoniare per quello spicchio lì, e c'è questo, se no non trova Enza? Ma sì, io sono d'accordo, però non mi piace questo pontificare dall'alto del Monsignore e dire che cosa dobbiamo fare noi, che già abbiamo i nostri di problemi, sì. Facessero loro quello che possono fare. Io rispetto la Chiesa, ma solo nella figura dei missionari, quelli sono i veri portatori della voce di Dio, se vogliamo crederci, no? Ma tutto il resto, tutti questi prelati che mangiano, stramangiano, appartamenti 200-300 metri quadri, poi si mettono a pontificare, no, non mi sta bene. Va bene, grazie Enza. No, un'altra cosa, poi l'abbandono. E vorrei sapere se ancora in Vaticano vige, come si dice, il reato di clandestinità al Vaticano, nello Stato del Vaticano. Non ne ho la più pallida idea, non lo so. Se glielo domandi un attimo a Monsignore, e allora dopo possono parlare, quando aboliranno tutte queste regole che vogliono abolire per noi ma non vogliono abolire per loro. È troppo comodo, fate come dico io ma non fate quello che faccio io. Va bene. I proverbi non sbagliano mai. Grazie, buona serata, ciao Enza. Andiamo con Andrea, sempre da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Eccolo. Io volevo dire questo, sento spesso dire vengono tutti da noi, se ne andassero a casa loro, sono troppi. Io viaggio molto per lavoro. Sì. E quando vado negli aeroporti esteri vedo una marea in più di immigrati. Io poi in particolare, poi con un lavoro particolare organizzo dei concerti per integrazione interculturale in Germania. Sì. Non dico l'orchestra, non voglio fare pubblicità. A Mannheim ho fatto delle ricerche. Su 298.000 abitanti, 104.000 integrati. Ogni tre persone a Mannheim, una è un immigrato. E fra l'altro la seconda etnia presente dopo i turchi sono gli italiani. Quindi, sì, no, ma che la Germania abbia tante richieste, più di quelle dell'Italia, di diritto d'asilo adesso, ma che abbia anche una componente stabile di immigrazione, diciamo così, integrata. Da molti anni, più alta della nostra, così anche la Francia, vale anche per la Francia, esatto. È vero. E non detto solo questo, per l'integrazione, ma molto, compreso il lavoro mio. Io organizzo dei concerti apposta per far dialogare le etnie minoritarie con la cultura tedesca. E poi, se posso fare un piccolo commento su Giovanardi, anche se scusi, sono un po' polemico, non lo merita neanche. Vogliamo chiudere anche le strade, visto che ci sono gli incidenti, i cieli, perché qualche volta qualcuno col parapendio si schianta. Cioè, vogliamo capire che chiudere gli spazi, ma vogliamo investire sull'educazione dei giovani? Io sulla sono prevenzione? D'accordo. Porca mia, allora chiudiamo tutto, pure il mare. No, no, non chiudiamo niente. Non chiudiamo no, niente. No, dico. No, ma sono due proposte diverse. Una è quella di chiudere la discoteca, che non è una proposta, ma è quello che ha fatto il questore di Rimini, su cui anche si è detto, insomma, e molti si sono espressi anche contrariamente. Io sono tra quelli. L'altra questione è quella se diciamo, vietare i 16 anni. Vietare i 16 anni. È come un'altra... dire che consideriamo le discoteche delle armi. Allora ripuliamole se sono così pericolose, ma non è che possiamo pensare che evitando che i 16 anni ci vadano, poi non si vadano magari ad ammazzare in altri luoghi, no? Sì, sì, insomma, sicuramente. Mi sembra stupido, però scusi, vabbè. Grazie. Grazie, grazie, buona serata. Andiamo con chi andiamo? Con Marco da Milano. Sì, pronto, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io ho 30 anni e chiamavo a proposito della telefonata che lei ha fatto con il dirigente sindacale della CISL, sì. Scandala, nomen omen, no, mi verrebbe da dire. Scandola, cioè, comunque. Ah, scandola. Sì, scandala, però siamo lì, per una vocale esatto, è uno scandalo vocale, vivente. Sì. Senta, io le dico solo questa cosa, io sono profondamente schifato perché lascerò l'Italia, io ho una laurea e un master, sì. Lascio l'Italia perché finora ho trovato qui dei lavori veramente da schifo, guadagnavo tipo? Non mi vergogno di dirlo, meno di 400 euro al mese, va bene, e con l'ultimo calcolo dell'INPS ho visto che mi spetterebbe una pensione di 56 euro al mese, cioè se continuo così io praticamente sprofonderei nella viene miseria. Da ridere, ma ci sarebbe da piangere, però certo se guardi adesso, Marco, ti lo do il tu perché quanti anni hai? 30. Se guardi adesso la pensione che prenderai fra 30 o 35 anni, diciamo che non è sì, molto indicativa. Dire, è chiaro che ci sono degli stipendi all'inizio che poi sono destinati a crescere. La speranza ragazzi, è quella. Scusami un attimo, cioè, sì. Io ti dico questa cosa, cioè io sarei condannato a vivere con uno stipendio che se tutto va bene è di 800 euro al mese per non so quanti anni, va bene, allora io me ne vado. Però la cosa che voglio dire... Ma hai trovato qualcosa, il punto è questo, hai trovato una cosa da fare all'estero? All'estero sì, certamente, cosa, ho fatto per Londra. Posso chiedertelo? Sì. Cosa andrai a fare? Mi occuperò di finanza e quindi sono molto contento. Ma ti dirò questa cosa, quello che vedi mi indigna in modo sì. profondo è che c'è gente come Bonanni, va bene, o gente che l'ha seguito, che ha fermato di tutto, no? Con i governi, anche l'ultimo Renzi, hanno firmato di tutto per porre delle condizioni invivibili per noi giovani con il Job Act, che fa veramente schifo, ecco, e hanno firmato tutti, cioè io mi ricordo che la CISL, anzi, era una di quelle più assatanate, sì è giusto firmare questi contratti perché ci sarà sicuramente lavoro e tutto quanto, e poi scopri che firmavano tutto perché questi sono ricattati, perché guadagnano quanto se non di più di un parlamentare, e quindi questa gente che per sé, che per i propri figli si preoccupa di garantire futuri meravigliosi, per il popolo invece firma dei contratti che segnano la fine di ogni decenza. Io sono incazzatissimo, cioè non è possibile che un sindacalista sì, con però la terza scusami. Media, ma tu l'hai sentito? No Marco, ok, però questa questione qua degli stipendi vale per alcuni, una serie di dirigenti, forse tanti, sicuramente troppi, ma scusami, però non è che vale per tutto il sindacato, per tutta la CISL, ci sono anche dei sindacalisti come lo stesso Scandola, che fino a che non hanno scoperto questa cosa ci stavano dentro, condividevano certe politiche, comprese quelle di fare gli accordi, non fare gli accordi, ma che non hanno e che non c'entrano nulla con lo scandalo degli stipendi. No, guarda, scusami, quello che io penso sì. Sommessamente è che gente come Scandola non conterà mai niente, e che sì. invece conta il vertice del possibile. Sindacato CGL, CISL e UIL, va bene, che facendo parte della solita cricca, va bene, firmano qualsiasi cosa perché sanno che se alzano il becco, gente come Renzi dice: ma scusa un attimo, ma tu che ti preoccupi tanto, ma tu quanto guadagni? No, perché sarebbe anche giusto che cominciassimo con un'operazione trasparenza, per cui io voglio, da cittadino che è condannato a lasciare l'Italia per le condizioni schifose in cui devo lavorare, sì. allora io voglio sapere sì, quanto sì. per percepisce questa gente. Voglio che lo sappiano tutti, voglio che lo sappiano tutti, e che lo sappiano per primi quei pensionati che devolvono parte dei loro soldi alla CISL o alla CGIL. Sì. Tu, posso dirti una cosa? Andai a Londra a lavorare nella finanza? Esatto. Quindi sì. Classico lavoro nella City? Sì, esatto. Ma sei un laureato in materie scientifiche e andrai a fare i conti? Cosa farai? Esatto, conti, sì. Conti. Con buoni stipendi? Sicuramente guadagnerei quattro volte di più che non quello che percepisco qui, ma giusto per iniziare. Guadagnerai o guadagneresti? Guadagnerò quattro volte di più di quello che guadagno qui, va bene, con delle prospettive di carriera, perché c'è, ma anche questo conta, sapere che fra due anni, tre anni, se io valgo, se io mi merito la mia pagnotta, io posso guadagnare molto, ma molto di più. Però a Londra, Marco, dove vai tu, la legislazione sul lavoro non è ipergarantista come magari invece tu auspichi che fosse in Italia. La differenza però cos'è? È che lì il lavoro c'è, quindi uno può anche rischiare in cambio però di che cosa? Di uno stipendio buono, no, ed un'opportunità di lavoro. Poi se non è per tutta la vita, non importa, questo forse è il senso di quello che dici tu. No, della tua felicità io, però, andare a Londra. Non è che sono un garantista. Perché lì ti licenziano, non è? Ci mettono 5 allora, minuti a Londra. Come, no, siccome tu hai parlato del Jobs Act, credo che a lavorare a Londra nella finanza il posto non sia garantito a vita. Il Jobs Act, guarda che funzionerebbe bene da noi, solo ha una condizione, cioè che non ci fossero, come non ci sono poi a Londra, o figli di papà o raccomandati che si pigliano poi i posti migliori. Cioè il Jobs Act funziona dove ci sono delle condizioni di parità assolute per accedere a un lavoro, ma di qualsiasi tipo, capisci? Perché a Londra tu cominci come cameriere, va bene, e ti guardi in giro, se parli bene l'inglese, se hai delle possibilità, va bene, tu hai la possibilità dopo X mesi di poter sperare in una qualche cosa di più. Qui invece cominci come cameriere, continui come cameriere, oppure vai dentro qualche call center e non migliori poi la tua posizione, perché nelle posizioni di vertice ci trovi i figli di Lupi, i figli di Bonanni, i figli sono di tanti Casini, sti figli di... i figli sono di... tanti sti figli di. Grazie Marco, in bocca al lupo soprattutto per Londra. Ci fermiamo, traffico, torniamo tra poco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Questa sigla del famosissimo, una colonna sonora del famosissimo film Trainspotting, film simbolo del fenomeno della droga tra i ragazzi negli anni 90, parlando di che cosa? Di questa che sembra, stando alla cronaca, una vera e propria emergenza estiva dopo quello che è accaduto al Cocorico con la morte di un sedicenne, adesso un altro ragazzo è morto in Salento. Sembra una emergenza, i giovani e la droga in discoteca, che prima forse non c'era. Invece i dati alla mano fortunatamente ci dicono che nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni i casi di morte per sostanze stupefacenti sono in calo. E questa è una buona notizia, sembra anacronistico dirlo proprio adesso, ma è così, anche se aumenta un po' il consumo di alcuni stupefacenti. Ne parliamo con Roberta Pacifici, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Che dirige il Dipartimento di Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi partiamo da questo primo aspetto, le cose diciamo nella fascia di età tra i giovani sembrano non andare peggio che in passato, è così? Non abbiamo dati di grandi modifiche del consumo di sostanze, se non per quello che riguarda l'uso della marijuana, che sì, che è in aumento. Ad essere in aumento. Rispetto ai decessi possiamo dire delle cose che secondo me sono molto importanti da sottolineare, che intanto il consumo di sostanze stupefacenti rimane diciamo la, tra le principali cause di morte evitabili tra i giovani in tutta Europa, e questo diciamo per legato alle overdosi da sostanze stupefacenti, sì, ma anche per le patologie o incidenti che sono correlati all'uso delle sostanze stupefacenti. Perché insomma, questo diciamo intanto qual è la sostanza ancora più killer tra tutte? Beh, resta l'eroina. Resta l'eroina la sostanza diciamo causa dei principali decessi, anche se accanto alle overdosi da eroina compaiono oggi intossicazioni mortali anche da altri tipi di oppiacei, cioè quelle sostanze vengono utilizzate per le patologie, diciamo per il controllo del dolore, e sì, quindi sono degli oppiacei diciamo ad uso terapeutico, ma l'abuso di queste sostanze, ovviamente un consumo non corretto, non diciamo per patologia, è diventato diciamo anche questo importante causa di morte, di overdosi. Poi abbiamo la comparsa, anche se in minore percentuale, delle morti dovute all'uso di altre sostanze, principalmente sostanze di natura sintetica, sono i catinoni, il GHB, o il caso dell'ecstasy, dell'MDMA, esattamente, oppure anche dei cannabinoidi sintetici, che cominciano a dare negli ultimi anni casi di mortalità per tossicità acuta. È stato detto anche che queste droghe sintetiche in particolare spesso sono hanno una composizione allora che sono già ovviamente pericolose, ma in alcuni casi possono esserlo ancora di più perché sono tagliate male, con acidi addirittura improbabili e sostanze ancora più pericolose. È vero? Conferma? Sì, naturalmente il problema delle sostanze sintetiche o delle sostanze che stanno girando, che circolano ormai e spesso si trovano diciamo a consumare i giovani giovanissimi, è che sono miscele di sostanze, sì, di sostanze diverse, la cui azione spesso fra di loro è o antagonista o addirittura sinergica, e questo naturalmente rende imprevedibile l'effetto sul consumatore. Cioè, poi da ricordare appunto anche il fatto che esiste una suscettibilità individuale, certo, e quindi che l'effetto provocato in un soggetto, che può essere un effetto diciamo tossico contenuto in un altro soggetto diverso, la stessa sostanza, la stessa miscela, prodotto utilizzato, può portare anche alla morte. Mi pare che l'abbia già detto anche prima, però è vero che la droga è la prima causa, nonostante i dati abbiamo detto tra i giovani non sono in crescita, però resta la prima causa di morte è tra le principali cause di morte prevenibili, cioè evitabili, ecco, tra i giovani in Europa, senz'altro. Sul fronte dell'informazione, l'Italia, anche questo ogni tanto si dice, è un po' indietro. Per esempio, da noi ci si fanno delle campagne nelle scuole, sicuramente ci sono. Sì, ci sono diverse campagne. Il problema, sì, è che manca un coordinamento diciamo centrale nazionale, per cui che cosa succede? Che alcune regioni sono abbastanza coperte perché hanno investito in informazioni. Cioè sta un po' diciamo a, come dire, al buon E questo diciamo crea, come dire, delle zone d'ombra in cui il messaggio non arriva, non penetra proprio a tutti gli stati. Sta alla buona volontà delle regioni, perché anche perché la sanità è regionale, anche per questo? Sì, anche per questo, ma perché diciamo ultimamente campagne nazionali generalizzate su questo argomento sono un pochino calate. Ma, sì, prego. No, io diciamo penso al problema che si sta diciamo mettendo in luce in questi ultimi periodi con queste morti tragiche, sì, e naturalmente tutti pensiamo a quali possono essere le soluzioni, quali possono essere le azioni di prevenzione rispetto a questo fenomeno, e così immagino che insomma si tratti anche di diciamo fare dei ragionamenti di buon senso. È logico che un incremento dei controlli nelle discoteche e negli altri luoghi diciamo a rischio è indispensabile, però non può essere l'unico strumento. Bisogna agire con azioni diciamo capillari di formazione e di informazione. Informazione sui giovani, perché devono comprendere che quello che consumano è qualcosa di assolutamente pericoloso per loro. E anche quali sono gli effetti, in alcuni casi come anche casi, bisogna assumere, certo, se si vuole, esatto, proprio assumere. Ma a questo proposito, dottoressa, però, sì, scusi, è anche importante agire con azioni di formazione sul personale delle discoteche, perché siano in grado di comprendere in maniera chiara quello che può succedere e sapere anche esattamente come comportarsi in, sì, in questi casi. Questo potrebbe diventare, che ne so, un obbligo per il futuro, cioè anziché arrivare a chiudere una discoteca, io dico al cocorico: guarda che devi fare questa cosa qua. Obblighiamo a fare formazione al personale perché sappia comportarsi nella maniera più corretta. Mm. Senta, ma è vero che, perché noi siamo documentati all'estero, in alcune zone, in Inghilterra per esempio, in alcuni paesi anche dell'Unione Europea, si utilizzano dei kit, dei test, si chiamano pill test, per verificare il tipo di pasticca, di sostanza che i ragazzi poi si trovano a ingerire, e potrebbe essere auspicabile questa cosa qua anche in Italia, che invece per qualche motivo non è stata introdotta? Guardi, è molto contrastante il problema. Ci sono dei paesi, cioè in Austria c'è un progetto che va avanti da anni, che sta proprio utilizzando questa tipologia. Ci sono dei professionisti che con diciamo un camper attrezzato per studiare, analizzare il prodotto, si mette in prossimità delle discoteche, dei rave party e analizza il prodotto. E chiaramente quando viene a conoscenza di un prodotto particolarmente pericoloso, avverte i consumatori. Questo naturalmente, diciamo, i dati portati da questo studio sembrerebbero indicare che in questa maniera vengono ridotte molte, diciamo, i casi di tossicità acuta legata all'uso delle sostanze. Però d'altra parte c'è anche da dire che questo non può essere, come dire, un messaggio di superficiale, un messaggio. Ma lei pensa che sarebbe un messaggio? Cioè, lei pensa che fare come l'Austria, mi scusi, lei pensa che fare come in Austria sarebbe dare un messaggio superficiale? Beh, io penso che un progetto di questo tipo dovrebbe essere accompagnato da una campagna molto importante di conoscenze, sì, e di informazioni. Che è quello che lei auspicava prima. Ma io le chiedo, a fianco di questa campagna di comunicazione, lei in Italia affiancherebbe anche l'utilizzo di questi test o no? Io sinceramente questo non mi sentirei oggi di appoggiarlo al 100%. Quindi informazione sì, però fino a un certo punto, non al punto, dice lei, di istigare quasi all'uso. Avrei timore, ecco, che questo tipo di azione possa in qualche maniera essere mal interpretato. Sì, però l'informazione che vogliamo dare è quella, deve essere un'informazione oggettiva, tecnica, quindi diciamo deve entrare anche nel merito dell'utilizzo di questa droga. Cioè io ti devo dire, glielo sto domandando, se utilizzi questa droga succede questo e quest'altro, quindi immedesimarsi nel consumatore. Il consumatore deve essere informato nel dettaglio e deve saper comprendere diciamo gli effetti prodotti sulla sua salute. Però mi permetta di sottolineare il fatto che un fatto molto importante è quello di creare nei giovani gli anticorpi per difendersi da queste sollecitazioni, da queste, diciamo, all'invito all'utilizzo di queste sostanze. Noi dobbiamo agire anche su questo, perché è impensabile poter, diciamo, fare prevenzione semplicemente dando informazioni sul pericolo dei prodotti. Noi dobbiamo agire creando coscienza e capacità, proprio anticorpi contro l'offerta, e questo lo possiamo fare solo con un'azione capillare, prolungata, lunga, che arrivi nelle famiglie, che sia nelle scuole, dove diciamo viene formata la coscienza e le capacità di difesa degli individui. Va bene, grazie, buona serata dottoressa. Buonasera. Pacifici, direttore del reparto di farmacodipendenza dell'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo pochissimo tempo, 800 24 00 24, per chiudere con un ascoltatore. Andiamo con Gennaro da Napoli. Buonasera. No, senta, io veramente dico la verità, sono molto sconcertato dalla presa di posizione del Monsignore, perché Galantino. È una presa di posizione assolutamente politica. Ora, come l'Italia non entra nei fatti politici della Città del Vaticano, non capisco perché Città del Vaticano debba entrare nei fatti politici italiani e alla fine anche europei. Cioè, questa è una bella domanda. Veramente intollerabile, insostenibile a spese nostre. Se li vogliono prendere, se li mettessero lì, noi non li abbiamo i soldi, e francamente riteniamo che ci sia un serio problema di sicurezza anche e soprattutto per i cristiani, cosa che loro ignorano completamente. Mi sembra che siamo andati veramente fuori dai loro limiti, dai loro poteri, e che ci stiano veramente trascinando nell'isolamento anche nei confronti dell'Europa. Va bene, grazie, mi devo fermare, c'è il giornale radio, a dopo, 00024 0024. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Mi vendo la grinta che non hai. In cambio del tuo inferno ti do due ali. Quello che il mondo estratto non ti dà. Noi qui sentiamo dire, sentiamo parlare di insopportabilità del numero di accoglienti o di richiedenti asilo da noi. Secondo me questo è un atteggiamento che viene in questi giorni purtroppo alimentato da questi quattro piazzisti, da quattro soldi, che pur di prendere voti, di raccattare voti, dicono cose straordinariamente insulse. Chi soffia sul fuoco dell'immigrazione è un piazzista da quattro soldi, parole di Nunzio Galantino, il segretario generale della CEI, a proposito dell'immigrazione. Cari ascoltatori, ben ritrovati, buonasera da Alessio Maurizi, eccoci qua con Si può fare, 18, 20 e 30, 800 24 00 24, una sorta di risposta a Grillo, che nel weekend, sapete, aveva auspicato una stretta sui permessi di soggiorno per gli immigrati, e soprattutto a Salvini della Lega, che aveva invitato il Vaticano a prenderseli in casa. Non so se sono tutti piazzisti quelli che criticano per esempio l'operato del governo sull'immigrazione, perché insomma che ci sia qualche cosa che non funziona sulla gestione dell'accoglienza, sui CIE ci sono stati anche degli scandali, ci sono delle procure che stanno indagando, sui tempi per la decisione dell'asilo politico, sui costi, che tutto questo sia solo roba da piazzisti non lo so, io personalmente non lo credo. Il governo forse dovrebbe rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di meglio, lo pensa anche Cacciari, che non è proprio cioè quello che credo Galantino immagini quando dice il piazzista, c'è in mente la Lega, c'è poco da dire, però sentite Cacciari. Poi ti dico come funzionavano le cose, funzionano così, a un certo momento gli arriva, tre giorni prima, gli arriva un fax, una mail al prefetto di Italia Italia e gli dice ti arrivano 500 persone. Alla mattina presto in una piazza di qualche paese gli arrivano i torpedoni e i prefetti lì per lì devono vedere dove collocarli. C'hai una casa sfitta? C'hai un condominio sfitto? C'hai un albergo possibile? A caso! Perché prima non si era fatto alcun piano di collocazione di sta gente. Io piuttosto, però, se mi è consentito, chiederei a Papa Francesco quando mai ha visto in Italia i nostri marinai, i nostri poliziotti ributtare in mare degli immigrati che riuscissero a mettere piedi sul nostro territorio. On the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancor di più. Quando fuori flexi sopra il mare, senza fare love non si può stare, oh baby. Eccoci qua, allora fatemi andare un attimo su Twitter per controllare i messaggi degli ascoltatori. Meritoria, legittima e motivatissima l'offensiva del signor Scandola. dice Stefano Fioretti che twitta si può fare 24 con l'intervista di apertura, scandalo al dirigente della CISL di Verona che ha sollevato, l'avete sentito, la questione degli stipendi d'oro, possiamo dirlo, dei dirigenti della CISL che guadagnano più di Mattarella, 250-280 mila euro. Poi chi c'è, vediamo, scrive Luca Schiavoni, aumenta l'uso, qui c'è dell'ironia, aumenta l'uso di cannabis, calano i decessi, ovvio, nessuno è mai morto di marijuana, mai. Che dire, sì, però non se no poi dicono che siamo troppo permissivisti, no? Ricordiamoci che di marijuana magari non si muore, ma non bisogna mettersi a guidare, perché sennò è come con l'alcol, va a finire male. Poi abbiamo Santiago che sempre su Twitter si può fare 24 e anche sul mio Ale Maurizi scrive questa cosa del non abbiamo i soldi per i clandestini, è una puttanata, li abbiamo per noi e per loro ma li sprechiamo, è un punto di vista anche questo. Adesso andiamo a introdurre il prossimo argomento. Beni culturali in pericolo. A Ischia il sindaco dice di non avere i soldi per tutelare e valorizzare che cosa? La Coppa di Nestore, che è un capolavoro con i versi in greco più antichi mai trovati in Italia, che si trova dentro Villa Arbusto ad Ischia. Buonasera al sindaco Giacomo Pascale. Buonasera, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Sindaco di Lacco Ameno? Sì, neo sindaco. Neo sindaco da poco, già mette le mani avanti, io sono qua da poco. Esatto. Però qualcuno ha scritto, c'è un'associazione che si sta battendo, diciamo così, in difesa di questi beni culturali, anche lì da voi, dice che potrebbe finire questa Coppa di Nestore in mano ai privati, dimostrando ancora una volta che l'Italia i beni culturali li lascia andare, non ci sono i soldi, c'è l'incuria, eccetera, eccetera. Che dice lei? Ma vede, questa indiscrezione giornalistica della vendita del museo di Villa Arbusto, io l'ho appresa già prima che mi candidassi alle elezioni amministrative. Non c'è nessun atto della mia amministrazione che va in questa direzione, lungi da noi l'idea di vendere Villa Arbusto. Abbiamo dei problemi che sono legati a problemi di gestione. In quanto noi abbiamo ereditato un comune in dissesto finanziario, sì, e quindi il primo problema è il personale. Sì. Allora in mancanza di personale si era ventilata l'opzione di doverlo chiudere il museo. Poi invece ci siamo approvati in consiglio comunale un regolamento per i volontari, sì, e abbiamo avuto la fortuna di trovare dei ragazzi volontari del luogo che tra l'altro laureato anche in scienze, diciamo, archeologiche, e che volontariamente hanno il museo aperto tutti i giorni, 6 giorni a settimana. Sì. Quindi voglio dire, al momento stiamo andando avanti tenendo aperto il museo, non c'è nessun atto della mia amministrazione. Perché che lei quanti dipendenti ha per questo tipo di gestione in comune? Noi non abbiamo nessun dipendente per questo tipo di gestione, avevamo 2 custodi soltanto, uno dei quali lo abbiamo lasciato a Villa Arbusto, l'altro l'abbiamo dovuto destinare a quella che è l'apertura e la chiusura del cimitero comunale, che non si può ovviamente non fare, certo. Esatto, che non si poteva chiudere, e quindi adesso il museo è aperto, lo teniamo aperto con questi volontari, a cui va il ringraziamento mio e di tutta l'amministrazione. Però è vero che lei, diciamo, tra le ipotesi c'è anche quella, se c'è qualche privato interessato a valorizzare questa cosa, che si faccia avanti? Ma noi non abbiamo nessuna difficoltà, è evidente che la mia amministrazione da qui a breve termine dovrà farsi carico di presentare un progetto, sì, per rilanciare l'intera struttura, vista l'importanza del nostro museo e vista l'importanza della Coppa di Nestore. Non siamo così, è vero che non siamo uomini di eccelsa cultura, ma non siamo così sprovveduti. È ironico, è autoironico il sindaco. A me sì, affascinano molto le persone di cultura, sa, quelle che parlano, non hanno inflessione parlano di solo, parlano però solo, alla fine non concretizzano. E allora, siccome poi si tratta di fare i conti con una domanda secca, ma questo museo lo aprite o lo tenete chiuso? Io mi sono preoccupato di tenerlo aperto. Ma quanto, che valore ha questa Coppa di Nestore, sulla quale ci sono appunto queste incisioni antichissime, forse le più antiche mai ritrovate in Italia, quindi diciamo che ha un discreto valore? Io non gliela so stimare come valore, sicuramente il valore è immenso dal punto di vista, diciamo, culturale e storico, e dal punto di vista economico non non, se questa è la domanda, non glielo saprei dire. Ma se lei potesse, diciamo, adesso la butto lì, se lei potesse dire la vendo a, che ne so, al British Museum piuttosto che a qualcun altro, e ci incasso talmente tanto che ne so, ci faccio servizi mirabolanti per i miei concittadini, posso fare la scuola, posso fare altro che cimitero, posso fare di tutto, rimettere in sesto le casse del comune, lo farebbe? No, assolutamente no. Assolutamente no, perché noi non siamo in questa condizione, noi siamo veramente, siamo in dissesto finanziario, sì. Ma noi contiamo che con una buona amministrazione, noi contiamo in una legislatura di raddrizzare la rotta, tra virgolette. Quindi l'idea nostra è quella di riprendere le attività, e soprattutto l'idea nostra per quanto riguarda il museo è quello di presentare da qui a breve un progetto di rilancio dell'intera struttura, calcolando, diciamo, tenuto conto di qualunque opzione possibile. Sì. Cioè, quindi compresa stato... anche la gestione data a un privato, per esempio. Ma io penso a un progetto pubblico-privato, penso a un privato che voglia, perché Villa Augusto non è solo museo, è anche altro. Quindi c'è un parco, c'è un bar, sì. c'è la Villa Gingerò. Voglio dire, ci sono delle strutture comunali che possono essere, che sono annesse al corpo centrale del museo, e quindi il tutto può essere, diciamo, valutato all'interno di un progetto di bilancio dell'intera economico, un progetto anche economico, no? Perché anche, insomma, economico, questa, economico. Questa è la vera miniera del sud, no? Quando si parla del sud che non funziona, cioè il turismo o ci esatto. dovrebbe essere dell'altro? Ma lei immagina un'isola come Ischia, un comune come l'Acquamino, di fama internazionale, che ha la fortuna di avere il Museo di Villa Arbusto con la Coppa di Nestore, che, come diceva lei, è praticamente una delle scritte più antiche d'Italia, se non la più, è sicuramente la più antica sì. in greco. E quindi a questo punto io penso che nessun amministratore potrebbe pensare ad alienare una cosa del genere. È evidente però che io ho l'obbligo morale, prima che politico, di individuare una strada per un rilancio, e quindi l'opzione di un privato, non so, di una fondazione, di imprenditori del posto, albergatori che vogliono investire all'interno del complesso Villa Arbusto, potrebbe essere una opzione da valutare. Perché lei, quindi, soldi per farla questa cosa, diciamolo chiaramente, non ce l'ha, cioè per mettere in piedi lei una... Io non ce li ho e non ce li avrò. Il punto è proprio questo, io non mi aspettavo i complimenti per averla tenuta aperta, perché penso che ho fatto solo metà del mio dovere, però sicuramente in questo momento mi crede è un miracolo. Tanto è vero che, siccome poi c'è stato tutto questo cancan attorno alla vendita, alla Coppa di Nestore, sì. ho notato mai come questa volta un grossissimo interesse da parte dei media, e quindi approfitterò per chiedere dopo Ferragosto udienza al ministro Franceschini, per vedere se lui ha l'interesse a poter finanziare un progetto di rilancio di Villa Arbusto, magari anche solo con personale e pochi soldi per la manutenzione, o viceversa, anche per dare un seguito a queste, diciamo, a questo interesse verbale da parte della sovrintendente archeologica, nella persona della dottoressa Giaranella, con la quale ho avuto un incontro, sì. ma fino ad oggi, diciamo, è solo aria fritta, cioè qua la concretezza non c'è. E siccome i beni archeologici in Italia, io penso sì. che se ne debba far carico anche e soprattutto il Ministero dei beni archeologici e soprattutto il Ministero del Turismo, in questo caso, dell'attività culturale. Beh, certo, un piccolo comune è come il suo, lei quanti abitanti ha il suo comune? Io sono inferiore ai 5.000 abitanti. Quindi un piccolo Quanti turisti avete però adesso, al momento? Noi siamo 45.000 abitanti sull'isola, arriviamo ad avere anche 3 milioni di presenze turistiche. Quindi, cioè, Ischia è importantissima come località, come meta turistica. Però scusi, allora gli rigiro la domanda: con 3 milioni di turisti su un'isola a 45.000 abitanti, possibile che non si trovano degli imprenditori che vogliono, diciamo, recuperare, valorizzare, mettere a frutto anche Villa Arbusto con la Coppa di Nestore, imprenditori locali che già magari stanno guadagnando col turismo, che resti qualcosa anche dal punto di vista della tutela, no? della valorizzazione? Appunto, io proprio questo dicevo, di vedere un attimino adesso, di tracciare un percorso nuovo rispetto al passato sì. e di verificare un attimino se un progetto può essere ritenuto di interesse, diciamo, anche economico da parte di imprenditori anche del posto. Quando dicevo l'apertura a privati, non era vendere a privati, ma valutare l'opzione che un privato possa trovare conveniente a venire a investire nella cultura e quindi all'Acquamino, non necessariamente un imprenditore non isolano, voglio dire. Ma in tutto questo io penso sì. che prima io debba tentare la strada istituzionale, che mi deriva dal ruolo che ricopro oggi è di investire di questo problema il Ministero dei Beni Culturali, perché atteso che c'è tutto questo interesse che leggo sui giornali, dal Corriere della Sera a Repubblica al Mattino, al Web, a Rai 2, eccetera, quindi se è così importante... dice datemi una mano, non mi rompete solo le scatole, ma datemi una mano. No, dico, se è così importante la Coppa di Nesse, lo dimostrassero con i fatti, tutto il resto sono chiacchiere, insomma. Va bene, grazie, bocca al lupo, bocca al lupo. A voi, grazie, grazie di tutto, buona serata. Buona serata al sindaco Giacomo Pasquale. Questa era la storia della Coppa di Nestore, 800 24 00 24, dove si balla tra tutela e valorizzazione del patrimonio e culturale e anche il turismo. Ci sentiamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, tra poco riprendiamo a sentire i vostri interventi all'800 24 00 24. Prima titoli del TG3. Aumentano i posti fissi nei primi sei mesi dell'anno, 250.000 contratti stabili in più. Renzi, Jobs Act, la strada giusta, OCSE si consolida la crescita. L'acciai sui migranti, c'è chi dice cose insulse pur di raccattare voti, sono piazzisti da quattro soldi. Salvini, chi difende l'invasione non capisce o ci guadagna. Minoranza dem e opposizioni bocciano la mediazione sul Senato, il vicepresidente PD, se non passa la riforma legislatura finita, ma per il nuovo centrodestra i numeri ci sono. È cominciato con uno scontro ad Amburgo il processo sui Marò. Girone, un ostaggio, accusa l'Italia. È offensivo, replicano gli indiani. Qui vive bene. Continuano gli interrogatori degli amici del ragazzo morto dopo una notte in discoteca in Salento. Domani l'autopsia, che cercherà di chiarire le cause del decesso. 16enne trovata morta sul lungomare di Messina. Si cercano i due giovani che erano con lei. Hanno chiesto aiuto perché la ragazza stava male e poi sono scappati. Di nuovo scontri, un ferito grave a Ferguson nella manifestazione che ricordava un anno dopo l'uccisione di un giovane afroamericano da parte di un poliziotto. Eccoci qua, c'è un ascoltatore che al 342-38-6666 dice: ma come, con 3 milioni di presenze di turismo sono in dissesto finanziario e chiedono contributi? Ebbene sì, 3 milioni chiaramente sull'isola di Ischia, qua stavamo parlando col sindaco di una parte di Ischia, non di tutta Ischia. Andiamo con Dino da Campobasso, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io ho letto un po' questa vicenda, ho seguito questa vicenda di Scandola, della CISL. Sì. Avendo sì. avuto anch'io un passato un po' travagliato con questa organizzazione. Perché travagliato? Quindi, che è successo? Perché sono stato anch'io dirigente sindacale, ho dovuto sbattere la porta e andare via per la mancanza di democrazia e di trasparenza. Però la cosa che mi ha colpito era che la signora Furlan risponde che a un certo punto il signor Scandola è stato messo fuori dai Brobiviri, che sì. Legiferano o giudicano in maniera autonoma. La domanda che mi pongo è questa: ma se i Brobiviri, o meglio la magistratura interna, sono individuati da chi comanda, dalla sì. dirigenza, come fanno a essere questi autonomi? Questi non godono di terzietà. Questi sono persone che devono rispondere a chi li ha individuati. Tra parentesi, sono individuati tra i vecchi dirigenti. Sì, no, ma è ovvio che la questione dei Brobiviri è solo, come si potrebbe dire, una, chiamiamola, una foglia di fico. Ci sono ovviamente delle regole, dei codici deontologici. Il signor Scandola probabilmente farà ricorso a questo licenziamento. Ma siccome ho fatto anch'io il corso sì. di Provivire, la magistratura interna non si ottiene niente. Sì. Cioè, il problema vero è che Scandola è stato fortunato o sfortunato, perché questa vicenda è uscita fuori sul giornale. Come ce ne sono altre che in maniera, voglio dire, molto più timida, non essendo uscite fuori alla ribalta, sì. nessuno ne sa niente. La verità è che oramai le organizzazioni sindacali, la CISL in maniera particolare, ha perso la democrazia, ha perso la libertà. Cioè le persone all'interno o rispondono al principe oppure vengono fatte fuori. Questa è la lettura che io do alla fine. Va bene, grazie sì. Dino, grazie, buona serata, buona serata. Andiamo con Marco da Bari. Marco? Buonasera, salve. Senta, io volevo intervenire a proposito del discorso sulla sensibilizzazione fatta nelle scuole a proposito delle droghe. Sì. Allora, io sono un educatore, quindi sono, come dire, abbastanza, cioè lavoro nella scuola, ma non sono del personale scolastico. Allora, dalla mia esperienza. E quindi, scusa Marco, per curiosità, se non sei del personale scolastico, che tipo di educatore sei? Sono assunto dalla provincia, quindi io sono un libero professionista, se volete, una finta partita IVA all'interno della scuola. Per fare che cosa? Qualche progetto in particolare? No, io seguo un ragazzo disabile. Un ragazzo diverso, sì, esattamente. Insegnante di sostegno, quello che era l'insegnante di sostegno. No. No, cioè l'insegnante di sostegno è l'insegnante di ruolo. Sostegno. Sì. Quindi l'insegnante, diciamo, di sostegno è interno alla scuola. Sì, sì, noi sì, siamo sì, esterni. Quindi noi non abbiamo. Dai una mano agli insegnanti. Ok, ok. Noi e non quindi abbiamo niente, praticamente. E quindi io parlo per come testimone esterno, quindi per quello che ho visto io. Io sono anni che non vedo dei corsi di sensibilizzazione nei confronti delle droghe. L'ha detto anche Roberta Pacifici dell'ISS, sì. Ma non solo nei confronti delle droghe, anche nei confronti del bullismo o di fenomeni semplicemente educativi. Sai cos'è? Che cioè, dipende, cosa, quello che diceva, scusami, che diceva la Pacifici, degli studi superiori di sanità, è che dipende, ci sono delle regioni e magari all'interno delle regioni anche delle scuole che si muovono meglio, perché la regione gli dà più fondi e ci sono regioni dove invece questo non accade, è molto a macchia di leopardo. Quindi tu sei, sì, in una zona dove non hai visto niente. Sì, ma io la cosa a cui assisto, poi sarà, sì, un'impressione mia, io dico sempre il discorso di essere esterno dalla scuola, quindi io non partecipo ai consigli eccetera eccetera, però l'impressione che ho esternamente io nella scuola, che comunque vivo, cioè io sono un elemento che comunque vive all'interno della, sì, scuola, è che abbia perso parecchio del discorso educativo. Cioè io la vedo come un'agenzia formativa sicuramente, ma da un punto di vista educativo io non, cioè, fatico a vedere dei contenuti rispetto anche alla socializzazione, sai cos'è, Luca? Un'educazione di tipo emotivo. Scusa Marco, quindi, sai cos'è Marco? Che alla scuola poi si chiedono tante cose, c'è il bullismo, dovrebbe intervenire la scuola, c'è la droga, dovrebbe intervenire la scuola, sull'alimentazione contro l'obesità dovrebbe intervenire la scuola. La scuola dovrebbe diventare un posto nel quale si fanno tante cose e c'è sempre qualcosa che resta fuori. Sì, però vede, io quando mi sono laureato, a me hanno sempre insegnato che la formazione è un segmento dell'educazione. La cosa che fatico a vedere io è all'interno degli stessi programmi un discorso di tipo educativo. Cioè nel senso che comunque al di là di passare l'informazione, insieme all'informazione, almeno anche ai tempi miei a scuola, ti passavano una forma di educazione, di correttezza. Va bene Marco, grazie, buona serata. Sono cambiati anche i tempi, tra l'altro, quando si fanno questi paragoni col passato non è cambiata solo la scuola, ma è cambiato il mondo da quando era giovane Marco e non so quanti anni fa, un po' di anni fa. Luca da Padova. Luca, buonasera. Salve, buonasera. Eccolo qua, prego. Volevo terminare sulla storia delle discoteche. Sì? Però mi sembra che c'era già in atto che le discoteche dovessero chiudere alle 2:30 di notte. Sarebbe bene che anche queste discoteche al Marine dovrebbero chiudere dalle 2:30. Perché? Per limitare l'orario dello sballo, per limitare l'orario, per limitare i danni. Esatto, perché sennò i giovani come stanno a stare in piedi fino alle 6 della mattina? Punto di domanda. Questa è una cosa che è stata detta, in effetti, perché stare in piedi per ore a ballare dentro una discoteca fino alle 7 del mattino, in effetti, se non hai preso qualcosa, non lo so, io un po' che non lo faccio, ma forse non lo facevo nemmeno quando avevo l'età per farlo. Perché erano altre discoteche, era un altro mondo. Questo è stato detto. È possibile che si possa intervenire anche su questo. Ci sono delle proposte di legge al momento, credo solo sulla questione dell'ingresso dei minorenni in discoteca. Andiamo con chi andiamo? Mario da Firenze. Buonasera Mario. Buonasera, aspetta che levo il vivo a voce. Bravo. Il discorso è tutto uno. Ho sentito ripetere molte volte il verbo la scuola intervenire. La scuola non dovrebbe intervenire. Io ho una certa età, la scuola dovrebbe formare. Sì. E quindi si parla di educazione, una delle parole che è scomparsa in Italia sotto tutti gli aspetti. Abbiamo avuto un ministro dei beni culturali, non ricordo se era Boldi, questo per riallacciarmi alla Coppa di Ischia di Nestor, che ha detto con la cultura non si mangia. Ma no, non era Bondi, era Tremonti, ma non com'è? Si sa mai. No, non era Bondi, era Tremonti, però non è mai Tremonti stato chiarito se l'aveva detta, insomma, questa frase. È oppure una follia, sì. Pure è semplice. Il problema è solo uno, l'educazione, la corruzione. L'educazione farebbe sì che i ragazzi a 13-14 anni, non dico che l'abbiano provata la droga, ma io quando ero piccolo venivano i vigili urbani a farci le lezioni di guida con le automobiline a pedali elementari. Perché chiaramente l'educazione è anche la mancanza di educazione stradale, si vede della gente che sembra che la patente l'abbia presa coi punti alla COP, la meritocrazia che non c'è più e la responsabilità. Ecco, ho finito. Va bene, grazie, grazie. Buona serata anche a Mario. Andiamo con Alessandro che invece chiama da Napoli. Buonasera. Buonasera, salve. Senta, un intervento breve. Praticamente sì, vorrei dire che vabbè, sono dispiaciuto che si venga a sapere soltanto quando ci sono dei momenti di crisi, che esiste una coppa di Nestore, oppure ci si ricorda di Pompei quando cadono delle mura. Quindi penso che sia ora di dare il tutto in gestione ai privati, oppure anche molto velocemente, perché si è visto che ormai lo Stato è fallimentare per la gestione dei beni culturali. Beh, non sempre, non ovunque. Il caso di Pompei è molto contrastante perché si sono fatti parecchi miglioramenti anche con soldi dei progetti europei, però qualcosa è stato fatto a Pompei. Sì, sì, sì, indubbiamente, però secondo me è importante una collaborazione con privati. Ma vabbè, questa è un'ipotesi, sicuramente, è un'ipotesi, anzi è più che un'ipotesi, che viene percorsa in altre situazioni, si dà gestione ai privati ed è quello che ha detto il sindaco di Ischia, che, rispondendo così alle critiche di chi invece temeva che si trattasse di una vera e propria, come dire, svendita, di un vero e proprio, di una vera e propria vendita a qualcuno di questo patrimonio. Credo che non potrebbe neanche farlo, questo non gliel'ho chiesto, ma non credo che lui possa proprio vendere. Anzi non può vendere, a volte attraverso questi contratti di gestione ai privati, sì, se i canoni delle concessioni sono bassi, sa, si fa presto poi ad arrivare a parlare di svendita. Andiamo con un altro ascoltatore, Stefano da Padova, prima di introdurre il prossimo ospite. Stefano? Sì, buonasera. Prego. Stefano da Padova. Niente, tanto complimenti, è molto pacato. E anche io. Niente, per curiosità ho guardato il numero di parrocchie che sono presenti in Italia. Sì. Ed è risultato un numero sorprendente, io non immaginavo, ma sono 26.000. E dove l'ha consultato questo dato, per curiosità? Ah, guarda, ho digitato il numero parrocchie italiane e è venuto fuori su Google. Vabbè, cioè, ma la prima cosa che è venuta fuori su Google potrebbe essere anche una bomba clamorosa, una balla, o no? No, non credo mica, sa, perché faccia conti comuni. Ma bisogna vedere però la fonte, perché non è che la prima cosa che digito su Google e poi la vado a dire in giro. Penso che non. Vabbè. Allora, io ho letto questo numero. E vabbè, lei dice in Italia ci sono 28.000 parrocchie, è possibile. No, 26.000. 26.000. Non è comune, quindi, attenzione, perché ogni comune è diviso in tante parrocchie. Nel mio comune di 15.000. No, ma è verosimile, abitanti, perché noi abbiamo 8.000 comuni, quindi è possibile, sì. Faccia il conto, è molto semplice. E quindi? E quindi il discorso è semplice. Io non voglio entrare in questa polemica che facei o politici, eccetera. Ha ragione uno, ha ragione l'altro, eccetera. È un problema estremamente difficile da gestire, eccetera. Però basterebbe che la CEI o la diocesi o il vescovo mandasse una banalissima circolare dove in queste parrocchie, sì, in genere sono anche, ospitasse uno o due persone, mm-hmm, automaticamente 50.000 disgraziati sarebbero perlomeno ospitati in una struttura dove un piatto di minestra, sì, o quant'altro, ecco, sarebbe, no, una, ma cosa è vero, se la mettiamo giù così, questo vale anche per i comuni italiani che sono 8.000, se ne ospitassero ognuno 3 avremmo risolto il problema dei 50.000, ognuno 4. No, però è vero, cioè, questo, numeri alla mano, si può fare questo ragionamento. Io credo che molte parrocchie diano una mano effettivamente, però se, come dice lei, sono 26.000, in effetti si potrebbe fare sicuramente di più. Come bella c'è la luna, brilla strette strette, come butto belle fasteggiare sotto celle di Roma. Torniamo a parlare di Roma, in merito alla questione del degrado della capitale, perché sembra che ci sia una nuova questione che riguarda la pulizia di un luogo particolare di Roma, particolarmente importante, che è i dintorni del Parlamento, in particolare proprio Piazza di Montecitorio, un luogo che dovrebbe essere pulito, pulitissimo lo specchio dell'Italia, ben tenuto, ma che invece non è così. In una lettera alla Presidente della Camera Boldrini, un parlamentare del Movimento 5 Stelle avanza una sua proposta. Buonasera Federico Dinca. Buonasera a tutti. Lo specchio del nostro paese è la piazza davanti al Parlamento stesso, che quindi diventa sicuramente punto di riferimento nei confronti anche del turista o del politico che viene dall'estero. Io però non me l'aspettavo che ci fosse un'emergenza, perché in genere quando si parla del degrado si dice vai in periferia, vai a vedere i rifiuti che non li raccolgono, ma in periferia. E invece succede anche proprio lì nel supercentro, a due passi al Pantheon? Guardi, io arrivo alla mattina alle 8 sempre in Parlamento e molto spesso capita che mi trovo davanti a una situazione, soprattutto in questo momento di grande caldo e di situazione in cui le persone prendono una lattina, prendono una bottiglietta in plastica, mangiano un gelato, via un degrado, nel senso che viene buttato tutto quanto per terra, e molto spesso, essendo alcuni grandi attività turistiche e di esercizio commerciale situate anche vicino al Parlamento, capita che questa zozzeria si trova in piazza del Parlamento e nelle vie che sono molto... Anziché nei cestini si trova tutta la roba che però sono pieni, si trova tutto quanto per terra. Allora io semplicemente ho preso carta e penna e ho deciso di scrivere alla Presidente Boldrini ancora in data del 23 luglio, non ricevendo nessuna risposta, indicando insomma il minimo possibile indispensabile, come appunto la pulizia, per non avere una discarica a cielo aperto davanti al Parlamento, e magari, chi lo sa, una collaborazione come vi sono anche in altre città, vedi Londra, vedi Berlino, in cui l'esercente, che appunto ha la fortuna di trovarsi anche situato in una zona e questa è la vicino, proposta, questo è l'aspetto nuovo secondo me della vostra proposta. Ci può essere anche una collaborazione, probabilmente, nel riuscire a mantenere un certo ordine, una certa pulizia. Se questo non funzionasse, quindi non vi fosse la possibilità, avendo così tanti forti dell'ordine vicino insomma al Parlamento stesso, io non mi stupirei se qualche volta potessero anche multare il cittadino o il turista che in maniera maleducata porca la nostra bellissima città, la nostra bellissima capitale. Insomma, ma esiste una fattispecie di multa per uno che butta il bicchiere della bibita in terra? Esiste una multa su questo? Ma guardi, io credo che andrebbe introdotta, secondo lei? Ma comunque il lasciare i rifiuti al di fuori viene comunque penalizzato dal punto di vista del codice civile, però giuridico, ma dall'altro punto di vista è proprio una situazione morale. Insomma, io credo che se la polizia o se i vigili che sono appunto al di fuori del Parlamento si avvicinassero al turista facendo capire l'importanza di mantenere una certa pulizia della città, sicuramente perché, ne avremo beneficio. Perché anche lei è d'accordo sul fatto, come ha sottolineato qualcuno, per esempio Azor Rosa all'inizio della tua questione di Roma, il vecchio Azor Rosa diceva attenzione perché l'incuria dei romani, l'inciviltà, tutto quello che volete, ma perché parliamo dei turisti, che ne so, turisti americani che vanno in giro a panza di fuori, poi si mettono a mangiare le patatine fritte sulle scalinate o a Piazza Navona e magari lasciano anche sporco. Cioè i turisti fanno parte del degrado anche loro in alcuni casi? Ma io credo che probabilmente in una situazione di degrado molte persone si adeguano al livello di Roma, però si adeguano ad un livello romano. Credo che dall'altra parte, se c'è la necessità di trovarsi davanti a situazioni in cui si sporca la nostra bellissima città, anche il turista possa essere multato. Prima della questione della multa, mi incuriosisce l'ipotesi che lei diceva appunto di una sorta di servizio privato, di un servizio di pulizia privata, che in cui siano anche i commercianti. Lei dice i commercianti che stanno attorno a Piazza Montecitorio sono nel pieno di Roma, nel pieno del turismo, guadagnano molto molto bene, devono contribuire anche loro a fare. Questi esercenti sicuramente pagano già le tasse per poter avere una Roma pulita. Per il resto, anche probabilmente in questo momento storico, c'è bisogno che il cittadino faccia un passo avanti. Io prendo l'autobus ogni mattina, prendo l'80 bis, dormo dalle suore, mi sveglio alle 6:30, sono in Parlamento alle ore 8, nel momento in cui apre il Parlamento stesso. Ma il primo, scusi, perché alle 8 apre il Parlamento? Credo di sì. Io credo di sì, di essere più o meno, se non il primo, il secondo, il terzo, insomma, non dico che lo apro io il Parlamento, ma quasi. Ma resta il fatto che secondo me il cittadino deve essere lui l'anima promotrice, come nel Movimento 5 Stelle, dal basso verso l'alto, avere la forza di poter spingere il suo vicino, la persona che butta per terra il mozzicone, la persona che decide di abbandonare la bottiglietta di plastica in mezzo alla siepe davanti a Montecitorio. Nel momento in cui lo vede, sì, avere anche il coraggio di dire così non si fa, questa non è la nostra città, noi vogliamo una città pulita, vogliamo una città bella. Ma è così che fa lei, perché mi diceva che quando prende l'autobus spesso si ferma a parlare con le persone e li incita, se buttano in terra qualcosa, a non farlo. Io, guardi, le racconto un piccolo avvenimento. Uscivo dalla commissione federemo fiscale, che si trova alle 8 il giovedì mattina. Alle 9 esco, una signora con un 125, una moto, si avvicina, aveva una sigaretta in bocca e la butta per terra. Io mi avvicino, le tocco il casco e dico: signora, mi scusi, ma le ha tolto il casco la signora, scusi? No, le ho toccato il casco e le ho tolto il casco. Questa sigaretta per terra è sua, e la signora, vergognandosi, mi dice no e poi fugge con la motocicletta. Io credo che sia veramente l'animo delle persone che deve cambiare nei confronti della pulizia della nostra bellissima capitale, ma delle altre città. Dobbiamo amare il nostro paese. Quindi non è vero, per amarlo, quindi, si parla, scusi, delle piccolissime cose. Così cade una specie di caposaldo quasi del Movimento 5 Stelle, che è che la casta, i politici, chi ci governa, spesso e volentieri è peggiore delle persone. Lei da questo punto di vista non la pensa così, perché invece mi sembra di capire che, anzi, dice che... La casta, ma io credo che la casta abbia prodotto il paese che noi abbiamo. Dall'altra parte, ogni cittadino deve fare il suo dovere, con politica o senza politica, ma fa parte del cuore del Movimento 5 Stelle, ognuno partecipa. Dando io la penso così, tra l'altro, io penso che... Io penso che siamo in tanti a pensarla così, sai? Io credo che sia la maggioranza del nostro paese che la pensa così, però certe volte ci vergogniamo a dirlo, ci vergogniamo a fermare una persona che butta fuori una cartaccia, magari dal finestrino della macchina, a dirgli o incitarli a dire basta, così non si fa, così sporcheremo tutti quanti il nostro paese. Sì. Va fatto dal basso verso l'alto, ed è la caratteristica principale del Movimento 5 Stelle. No, è anche io la penso così, ma aggiungo che penso che sia anche sbagliato e a volte anche stupido dare la colpa ai politici di tante cose che non funzionano, perché invece i politici fanno quello che gli elettori gli chiedono di fare. Però l'esempio è l'esempio. Il politico, diciamoci la verità, negli ultimi 20 anni non abbiamo avuto un buco di bilancio di 2.200 miliardi di euro se la politica avesse avuto altre qualità morali. E invece ci troviamo a combattere una Roma che ha problema con busti carminati, con le cooperative, eccetera, eccetera, con incriminati partiti di destra e di sinistra. Sì. Credo che vi sia una dubbia moralità di una classe politica passata che ha prodotto un degrado forse anche dei cittadini che si sono rassegnati a questa classe politica. Sta a noi tutti insieme, politica, cittadini, poter cambiare il paese. Abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare in questo momento. Senta, oggi Monsignor Nunzio Galantino, sul tema degli immigrati, il segretario della CEA, Radio Vaticana, ha definito piazzisti da quattro soldi i politici che, diciamo, cavalcano la questione dell'immigrazione. Si riferiva probabilmente, con tutta probabilità, alla Lega, ma forse anche al Movimento 5 Stelle, con Grillo che ha auspicato nel weekend una stretta sui permessi di soggiorno. Ma guardi, siete dei piazzisti. Le posizioni, io sono tra l'altro anche veneto, come sai, sono bellunese, sono nella parte più alta forse del nostro paese, e noi affrontiamo in Veneto ogni giorno il problema dell'immigrazione, avendo appunto la Lega principe, diciamo, nel Veneto con le ultime vittorie delle elezioni regionali. Il tema è molto caldo, però le differenze sono tante. Noi non parliamo di tombini di Ghisa e di Ruspe, noi parliamo di poter gestire, Vittorio Bertola nel suo intervento all'interno del blog di Beppe Grillo ha voluto dire questo, ha dato una visione da parte di un consigliere comunale del problema dell'immigrazione, con quattro semplici regole, situazioni che possono portare a un miglioramento della situazione, perché non parliamo di altro, parliamo veramente di gestire la protezione umanitaria, parliamo di quello che quando succede il diniego dell'asilo da parte dell'immigrato, parliamo della sorveglianza un po' più stretta di queste persone che magari deve essere fatta appunto dalle cooperative che tu dai in gestione. Mi sembrano cose basilari dal punto di vista del consigliere comunale, che è un punto di vista nuovo, non sempre si guarda dall'alto verso il basso, è come il discorso di prima, la politica che dall'alto cerca, e noi cerchiamo di poterlo far capire, perché il trattato di Dublino, il numero di permessi che possono essere fatti, i campi di accoglienza al di là del Mediterraneo, però è giusto anche capire che i consiglieri comunali sono a fianco del cittadino ogni giorno, più ancora del parlamentare stesso, ed è del nostro compito, noi del Movimento 5 Stelle almeno facciamo così, ascoltiamo i nostri consiglieri comunali e spesso queste idee che loro ci danno sono le idee basilari che la gente, che la popolazione, in questo caso Torino io credo, ha in questo momento come sintomo più grave. Poi ci sono degli errori, sì. E io le ripeto, se ne prende il caso Treviso, se io metto in un quartiere, in un palazzo 100 immigrati, è chiaro che la popolazione di quel quartiere ne soffre, è chiaro che i consiglieri comunali ne soffrono di quella situazione e cercano delle soluzioni diverse che la politica o che i prefetti... Ma questi sono gli errori fatti per una mancanza di gestione da parte del governo, di coordinamento, di capacità di previsione del fenomeno. Si affida, come dice Cacciari per esempio in un audio che abbiamo sentito poco fa, ai prefetti l'improvvisazione di mandare un autobus con 100 clandestini di qua o di là. Certo. Ma io credo che l'improvvisazione di Angelino Alfano, che è il nostro ministro degli interni, è sotto gli occhi di tutti. Io credo che le parole che Salvini ogni tanto mette in bocca per quanto riguarda gli immigrati, io vorrei ricordare al signor Salvini che in Liguria ha vinto con i voti di Area Popolare, con i voti di Angelino Alfano, con cui era alleato anche in Umbria, dove rischiava di vincere. Quindi non ci prendiamo in giro. Queste persone hanno prodotto il danno, va bene, con una gestione pessima del fenomeno dell'immigrazione che c'è e che ci sarà anche nei prossimi anni, va bene, e che va risolto con l'aiuto dell'Europa e con l'aiuto probabilmente anche di tutti i consiglieri comunali come Vittorio Bertola, il quale possono dare dei consigli e delle idee, e noi del Movimento 5 Stelle li accogliamo e cerchiamo di farle nostre con la massima pacatezza e in maniera concreta. Un'ultima cosa Dinca, sulla RAI, no? Perché davvero secondo lei sarebbe immaginabile che Grillo possa tornare sulla RAI? Ma guardi, io non so dire i programmi futuri che ha Beppe in questo momento. So che noi saremo a Imola 17-18 prossimo di ottobre, per cui sicuramente lì potremo fare delle bellissime incontri, delle bellissime studio. Dall'altro io credo che forse affronteremo un problema molto più grande nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, l'arrivo di Netflix per certi giorni. Sì. Voi avete nominato Freccero però ha detto questo, a onor del vero non ha detto che lui farebbe tornare Grillo in Rai, ha detto che secondo lui Grillo sarebbe tentato di farlo e che quindi è un'ipotesi, ma non sarebbe Io credo che farebbe uno share. Non sarebbe lottizzazione partitica anche quello? Enormi per la RAI. Lei dice produrrebbe degli introiti perché farebbe ascolti come comico, ma non sarebbe una, visto che ci possiamo far poco, abbiamo parlato di conflitto di interessi per anni per Berlusconi, adesso Grillo riveste due ruoli. La mia chiaramente era una battuta, sì. Lei l'avrà sicuramente capita, insomma. Io guardo, no, chi lo sa, che magari poteva essere la verità. Sono uscite tante parole in questi momenti, credo che tranquillamente Beppe Grillo potrebbe, come ha sempre fatto, registrare una puntata e mandarla su YouTube, avrebbe milioni di quindi la RAI no, quindi la RAI no. Quindi secondo me ci sono tantissimi mezzi di informazione e di poter comunicare sia uno spettacolo che un pensiero politico di Beppe Grillo al di fuori anche della RAI. I mezzi sono così tanti di giorno che ormai sicuramente la RAI va visionata e va portata verso una visione completamente nuova e che noi cercheremo di darlo attraverso il contributo e l'aiuto che noi tutti possiamo mettere ogni giorno al servizio di questo grande. Quindi sarebbe un po' sconsigliabile che finisse in RAI Grillo, sarebbe da evitare. Ma no, guardi, io non voglio nemmeno mettere becco se può non andare, però secondo me ci deve essere la libertà da parte del consiglio di amministrazione di poter scegliere cosa vuole fare, ma del resto i programmi mica li decide il CDA, non li decide il CDA, i programmi li decidono i dirigenti. No, i dirigenti decideranno, i dirigenti che verranno nominati verranno fatte le proprie considerazioni al di fuori di quello che pensa Federico Dinca e quello che pensa il Movimento 5 Stelle. Ma va bene, dobbiamo fermarci. Grazie per essere stato con noi, Federico Dinca, 5 Stelle, a dopo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ben ritrovati, al vostro momento. Andiamo con... facciamoli in fila, vai. Domenico da Verona, dall'alto in basso. Buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo fare un piccolo intervento per quanto riguarda i sindacalisti. Sì. E praticamente erano, sono e saranno sempre la rovina dell'Italia. E la miseria. L'ultimo esempio ce l'abbiamo con l'Electrolux. che gli ha chiesto di lavorare il giorno di Ferragosto, cosa hanno fatto? No. Come è andata a finire, tra l'altro? Lei lo sa? No, non è così informato. No, non lo so. Perché lei chiama da una zona che non è lontana dallo stabilimento di Susegana, che è Treviso. Anche perché faccio il camionista e ci vado anche a caricare lì. E allora faccia così, la prossima volta che ci passa vicino chieda com'è andata a finire, poi ci richiama in trasmissione e così ci fa da inviato all'Electrolux di Susegana per sapere se hanno lavorato o no alla fine del giorno di Ferragosto. No, poi facciamo prima noi forse a informarci e magari a raccontarvelo nella puntata di domani. Grazie Domenico. Andiamo con Gianluca che ci chiama da Roma. Buonasera. Pronto? Eccolo qua Gianluca, tocca a lei. Perfetto, buonasera. Allora, grazie prima di tutto di avermi richiamato. Sì. Io volevo fare solo tre brevissime considerazioni circa, diciamo così, il problema di retribuzioni sindacali. Molto banale. La mia considerazione è che è chiaro che un dirigente non può guadagnare, la sua professionalità deve essere retribuita. Però è anche poco accettabile che un dirigente sindacale guadagni 15 volte quanto l'iscritto medio al suo sindacato. Ma soprattutto, scusi, soprattutto più che una questione, diciamo, di proporzioni, che ci può stare, lo si fa nelle proporzioni con gli stipendi dei dirigenti d'azienda, figuriamoci, non possiamo farle anzi, sicuramente di più con i dirigenti sindacali. Ma il tema è, dati gli introiti del sindacato, che sono, derivano da chi? Dai versamenti volontari dei dipendenti e dei pensionati. Ecco, se pensiamo a quello, allora pensare a uno stipendio di 300.000 euro per un dirigente, neanche per il segretario generale, ma per uno dei tanti dirigenti che ci sono, insomma, fa un po' impressione, fa impressione. Assolutamente, questo si ricollega alla seconda cosa che volevo dire, che c'è un problema di opacità, perché un sindacato dovrebbe essere una casa di cristallo, quindi se queste retribuzioni fossero pubblicate su siti internet, e dico di più, che licenziare scandola perché ha fatto questo elemento di trasparenza, è vergognoso, perché la trasparenza non può mai essere un motivo di licenziamento, al giorno d'oggi la trasparenza non può essere un motivo di licenziamento, specie per una cosa così, dove gli stipendi di chi svolge un servizio pubblico ormai sono devono essere sotto gli occhi di tutti. Assolutamente. E poi mi consente di dire una terza cosa, che però secondo me è la più importante. Sì. Riguardando l'organigramma del sindacato, tutte le posizioni di vertice sono occupate da pensionati. Questa cosa è importante per il nostro sistema paese, perché ci fa capire perché ad esempio la riforma delle carriere è stata, delle pensioni è stata scaricata integralmente sulle nuove generazioni, perché in questo paese abbiamo una spesa pensionistica che è molto superiore alla media europea, perché non si riescono a trovare risorse per fare effettivamente capacità di inclusione per i servizi sociali. È un grosso problema. Probabilmente quando avremo quei leader sindacali quarantenni, probabilmente avremo anche qualche cambiamento significativo nel nostro assetto sociale, nelle prospettive. Va bene, va bene. Grazie Gianluca, buona serata, grazie. Andiamo con Vladimiro che ci chiama dalla provincia di Milano. Buonasera. Vladimiro? No, non ci sente Vladimiro. E allora andiamo a Trento, da dove ci chiama Ennio. Ennio, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Io volevo intervenire in merito il degrado di Roma e volevo riagganciarmi a quello che aveva detto il deputato, credo, del Movimento 5 Stelle. Sì. Ecco, io sono totalmente d'accordo con quanto dice, perché dobbiamo finirla con questo provincialismo di dare sempre la colpa agli stranieri, agli altri, non ci sono le risorse e tutto quanto. Il problema nasce dal fatto che i cittadini, così come chi ci governa, sono allo stesso modo responsabili dell'incuria, della mancanza di volontà di fare quello che devono fare, perché a Roma non so, ma ho sentito, io sono di Roma, anche a Trento, ho sentito che ci sono più di 40-50 mila dipendenti comunali. Tra questi ci sono migliaia e migliaia di giardinieri e di operatori ecologici, una volta si chiamavano netti urbini. Ma ormai allora, i giardinieri sono rimasti pochissimi, perché sono tutti negli uffici. Quindi se lei va a Roma, io abitavo a Roma, sono nato e cresciuto a Roma, se lei va al centro, non in periferia, non troverà un'aiuola tenuta come si deve, come si dovrebbe, come si dovrebbe. Tra l'altro, grazie, tra l'altro c'è un ascoltatore che invece all'SMS 349-238-6666 scrive: sa quanto paga un commerciante o altra attività nel centro di Roma per i rifiuti? Dai 2.000 ai 5.000 credo che siano euro l'anno. Sì, è vero, ma se l'hai detto da solo, Dinca, io glielo stavo per chiedere, se l'hai detto da solo, parliamo di commercianti che già pagano le tasse. Però la proposta che lui fa è questa, e fra l'altro è sul modello di quello che accade anche in altre realtà in Europa, cioè commercianti che prendono in mano alcuni quartieri di alcune città importanti e in virtù dei commerci che fanno, delle attività che ci sviluppano, vanno oltre quella che è la gestione della pubblica amministrazione, e con questioni di rilancio, con facendo delle attività e delle iniziative, ma anche delle pulizie ordinarie o straordinarie. La differenza, semmai aggiungo questo elemento, è che mentre in Inghilterra la pressione fiscale è sicuramente più bassa che in Italia, allora questa cosa è accettabile. In Italia lo mandi giù un po' meno bene questa proposta, che è una proposta, non so quanto futuro avrà, che arriva dal parlamentare Movimento 5 Stelle. Allora, chi abbiamo adesso? Massimo da Firenze, buonasera. Pronto? Pronto, tocca a te, sì. Massimo. Sì, buonasera. Mi volevo ricollegare a quello che è stato detto, sì, a proposito anche dai radioascoltatori che sono intervenuti prima, e anche riferito all'intervento che avevo appena fatto. O meglio, l'aspettatore ha telefonato a Napoli, diceva che ci si accorge, o dalla campagna, non mi ricordo, che ci si accorge che ci sono siti importanti come per esempio Pompei che dovrebbe essere data in gestione ai privati, perché ormai il pubblico si è visto che non è in grado di gestire. Allora, io volevo fare questa distinzione anche riferito a quello che lei ha appena evidenziato, che non esiste un sistema migliore di un altro, ovvero non c'è il privato che è migliore del pubblico o viceversa, ci sono persone capaci e persone incapaci, persone oneste e persone disoneste. Questo si evidenzia quotidianamente, perché come si fa a dire che nel pubblico ci sono tutte persone incapaci e tutte le persone capaci sono nel privato? No, ma è vero, io sono d'accordo con lei. Poi ci sono delle casistiche nel pubblico, come... e soprattutto oneste, sì. Perché se si guarda quello che ha fatto il sindaco di Formia, che è sotto, sì, gli occhi di tutti, che in 2 anni ha risanato un bilancio che era strafossato, e all'intervista come ha fatto? Ma semplicemente ho riguardato i bilanci, ho affidato gli appalti a chi dovevano essere affidati e ho fatto le cose che dovevano essere fatte. Questa persona è una persona capace e onesta e ha risanato un bilancio pubblico. Allora, sì, però mi scusi, è indubbio che ci siano una serie di aziende, prendiamo il caso dei trasporti, aziende pubbliche nei quali negli anni, all'interno delle quali sono state fatte un sacco di assunzioni perché tanto pagava Pantalone, e adesso sono aziende che non stanno più sul mercato. Saranno tutte persone buone, ha capito, però sono state gestite talmente male che adesso bisogna intervenire e fare qualcosa, quindi cambiare, mandare via qualcuno, vendere, privatizzare il servizio, qualcosa bisognerà inventarci. Grazie, buona serata, andiamo. Abbiamo i titoli, la 7. Forte crescita dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel primo semestre dell'anno, la notizia dai dati INPS che registrano 250.000 in più rispetto al 2014, una crescita del 36%, ovviamente molto soddisfatto Renzi, che dice la riforma del mercato del lavoro funziona, l'Italia riparte, con buona pace di chi si augurava il contrario. Sui migranti è di nuovo polemica forte, il segretario generale della Conferenza Episcopale Galantino attacca quelli che definisce piazzisti di quattro soldi, che dicono cose insulse per raccattare qualche voto. A stretto giro arriva la replica del leader leghista Salvini, chi difende questa invasione clandestina o non ci capisce o ci guadagna. E resta altissima la tensione nel PD sul tema del Senato elettivo, su cui spinge la minoranza interna. Il vicepresidente del partito Ricci avverte: non fare le riforme vuol dire far terminare la legislatura. Brunetta annuncia che sul DDL Boschi potrebbero arrivare i voti di Forza Italia se ci fosse il premio alla coalizione e proprio il Senato elettivo. Al Tribunale del Mare di Amburgo, battaglia legale tra Italia ed India sul destino dei due Marò. L'India dimostra di disprezzare il giusto processo, ritenendo i nostri fucilieri già colpevoli, afferma l'ambasciatore Francesco Azzarello nell'aula del Tribunale. Il governo indiano respinge le richieste urgenti dell'Italia di liberare i Marò e dice: Girone a Delhi vive bene, è offensivo definirlo ostaggio. giornata di attentati e di morti in Turchia. 4 poliziotti sono stati uccisi da una bomba nel sud-est del paese, in una zona dove sono frequenti gli attacchi dei ribelli curdi. Poi nel resto del paese altre 5 vittime in una giornata che è stata violentissima di Istanbul, con spari contro il consolato degli Stati Uniti e una bomba contro un commissariato di polizia. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Andiamo con Pietro che ci chiama da Bologna. Buonasera Pietro. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire rispetto alle dichiarazioni del rappresentante della CEI. Galantino. Esatto. Rispetto al fatto che la Chiesa, giustamente, perché io sono contro il reato di immigrazione, però la Chiesa poi ha migliaia di appartamenti, case, è il principale proprietario immobiliare d'Italia, con enormi proprietà vuote, e potrebbe darlo ai clandestini, ai migrati, diciamo, non parliamo di clandestini, sì, è vero. Agli immigrati. Io ho detto solo questo, che un po' già questo succede. Ora io non so misurare, qualcuno ha detto ci sono 26.000 parrocchie, quindi se prendessero ognuno 2 immigrati avremmo risolto il problema, può darsi. No, io sto parlando di non migliaia, so quanti immobili migliaia. Ci sono, è vero. A quello Bologna che c'è migliaia di appartamenti vuoti, la Chiesa. A Bologna ci sono migliaia di appartamenti vuoti. Ma in tutte le città. Ma in mano alle banche, ai grandi proprietari che sono dei grandi evasori. Ma quindi non solo la Chiesa, però, mi scusi, non solo la Chiesa. No, ma sto parlando. Se per questioni di ordine pubblico il sindaco ha il potere di requisire appartamenti vuoti che servono per speculare, dove ci sono grandi proprietari immobiliari che speculano, magari ti danno cantine a 200-300 euro a posto letto proprio a quegli immigrati. Poi hanno appartamenti assolutamente vuoti. Però sono cose diverse, quindi lei non se la prende solo con la CEI. Lei dice che lo Stato dovrebbe requisire tutti gli appartamenti sfitti. Anche al Vaticano. Lei dice che lo Stato dovrebbe scusi un attimo, perché non ci siamo capiti. Pietro. Certo. Lei dice lo Stato dovrebbe fare che cosa? Cioè prendere alcuni di questi appartamenti sfitti, che siano delle banche, che siano della CEI, che sia anche il mio o il suo. Dei piccoli proprietari. Sto parlando dei grandi proprietari immobiliari, tra cui c'è anche la Chiesa. Quindi il discrimine è se è un grande proprietario, tipo la Chiesa o tipo una banca, allora lì si potrebbe fare la requisizione, secondo lei. Si dovrebbe fare. In Francia già qualcosa del genere viene fatto. Sì. Se un appartamenti vuoti per anche speculazione, cioè rimangono vuoti per un tot di anni, vengono costretti a vendere al prezzo del che vuole lo Stato. Sì, no, ma questo che lei dice, io guardi, lo farei anche senza avere la pressione degli immigrati addosso, perché chiunque ha degli immobili sfitti contribuisce. Esatto, e senza tetto italiano, ma anche delle attività che cercano una casa, attività economiche, commerciali. Qualcuno dice che tutti questi immobili sfitti contribuiscono a tenere alti i prezzi. Appartamenti vuoti per costruire del nuovo, per speculare. Però questo è una cosa che va al di là del tema degli immigrati, è una cosa che riguarda la casa in più generale. È una ruota di un tipo di economia. Sì. Ma gli immigrati ci sono perché dobbiamo ricordare che soprattutto in Africa, ma e in Asia per quello che ci riguarda noi, ma poi dovremmo parlare anche dell'America Latina o del Centro America, ci sono guerre che sono create dall'Europa, ma soprattutto dagli Stati Uniti, che diciamo per interessi geopolitici, economici, di risorse minerarie, dalla Nigeria a tutto l'aspetto del Sudan, tutto del Golfo Persico, arrivare alla Siria. Sì, non è che siano tutte cose. Hanno fomentato. Sì, non è che sono tutte guerre. Scusi Pietro, non è che sono tutte guerre causate dall'Occidente. Sono anche cose che succedono perché succedono in Siria questioni tra di loro. Non è che c'è sempre per forza l'Europa che o no? Tenuto l'ISIS. Sì. Va bene, Pietro, grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Si può fare. L'attualità anche d'estate. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few, mezza Italia festeggiava la Pellegrini e l'altra mezza guardava la finale Supercoppa tra la Juve e la Lazio, un altro pezzo di sport si muoveva. Un giovane, giovanissimo atleta, un neocampione, conquistava i mondiali di judo. Lui è Giovanni Esposito, a 17 anni. Ciao, buonasera. Buonasera. Giovanni Esposito da? Da Napoli. Da Napoli, non poteva che essere così. La storia, la tradizione che c'è in quella città con il judo, basta pensare a Maddaloni. Sì, sì. Ti senti parte di questa tradizione? Sì, sì, anche perché 2 anni fa è stato mio fratello Antonio a vincere il campionato del mondo e adesso ci sono io a vincere il secondo titolo per l'Italia, il secondo titolo mondiale. Mi immagino che mazzate che meni a chiunque passi lì d'intorno. Sì, no, no, no, sono serio, al di fuori nulla. Sì. Serio. Da quanti anni, quando si inizia a fare judo per arrivare a questi livelli? Pratico questo sport da circa 12 anni, grazie a mio padre che anche lui fin da piccolo appunto frequentava questo sport. Quindi adesso sì, mi trovo a praticarlo a livello agonistico. A livello agonistico. Quindi sei iniziato da 12 anni, ne hai 17, hai iniziato quando avevi 5 anni. Sì, sì. Molto sì, presto. Sì, senti, molto. Quante ore al giorno fai di allenamento? Adesso diciamo che quando non vado a scuola mi alleno solo la sera, faccio solo judo. Mentre adesso che non sono impegnato con la scuola mi alleno 2 ore la mattina di preparazione, sì, e la sera faccio judo, circa 2 ore. Quindi vai a scuola normalmente, vai con buoni risultati? Sì, sì, sono stato promosso e adesso devo fare l'ultimo anno all'istituto alberghiero, Vittorio Veneto dello Scampia. Vabbè, l'alberghiera non è che sia una scuola troppo difficile, no, forse. Hai scelto apposta una scuola facile, sì, perché... proprio per alternare sia scuola che judo. Perché comunque in testa avevi già, quando hai cominciato la scuola, che volevi fare il judo. Sì, ma sì, sì. E ti resta il tempo poi per fare altre cose? Penso di sì, insomma, l'hai detto. Diciamo vai a scuola, che... fai il judo 2 ore la sera. Tempo per gli amici ce l'hai? No, quasi mai. Quasi ad esempio mai. Quando torno da scuola mi riposo un po' e poi sono pronto per allenarmi. Finisco verso le 22 sì, e dopo mangiarlo subito vado a dormire. Ma quindi scusa, quante ore ti alleni? Perché se ti alleni fino alle 22 Noi iniziamo tipo allenamento verso le 19:30. Sì. Ci alleniamo circa 2 ore, 2 ore e mezza. Ma allora dopo... tra l'uscita di scuola e le 19:30 non ce l'hai un po' di tempo per vedere i tuoi amici? No, vabbè, quel poco tempo che mi rimane, o mi riposo o studio. Mamma mia. Perché anche molto, diciamo, sono molto stanco quando torno da scuola. E ti pesa fare questo tipo di vita o è talmente la passione che non te ne frega niente di tutto il resto? Sono tanto appassionato che ormai sono abituato a fare queste cose. Tipo, non so, videogiochi, che è la passione dei ragazzi di oggi. No, ascolto solo musica e il telefono, Facebook. Facebook, quello sì, i social, sì, guardi gli status. Anche perché la scuola ormai è l'ultimo anno, poi dovrei diplomarmi. Dovrei, giustamente sì, uso il condizionale perché non si sa mai, non si sa mai. Sì, appunto. Senti, avrai sentito anche di questa giovanissima nuotatrice del Bahrain, soli 10 anni, che ha fatto un po' discutere perché ha nuotato ai campionati del mondo, era la più veloce tra le nuotatrici del Bahrain e quindi è andata, no? E si è detto, ma 10 anni è troppo presto per fare una cosa del genere. Tu hai cominciato a 5, che ne pensi? Sì, penso che l'età giusta è fin da piccoli. Spingere subito fin da piccoli, anche perché già da piccoli bisogna dar dentro. E io adesso, grazie a quello che adesso sto ottenendo dei risultati. Cosa significa per te questa attività, il judo? Cosa vuol dire per te? È una parola che non riesco a descrivere, anche perché ormai vivo solo per il judo. È tutto per me adesso. Ma i tuoi amici, vabbè, adesso hai vinto i mondiali, quindi ti saranno, non dico invidiosi, ma insomma felici per te. Qualcuno forse sì, sarà anche vorrebbe essere al tuo posto. Però prima che arrivasse la grande vittoria, no? Magari qualche anno fa che lavoravi come un matto e qualcuno pensava che fossi, che stessi sbagliando, ti hanno criticato? Sì. Succede? Diciamo che adesso è abbastanza strano per me, anche perché ricevere tutti questi messaggi è un po' strano. Nessuno mai mi ha incoraggiato, nulla, neanche la scuola, diciamo che non mi è stata molto d'aiuto. In che senso la scuola non ti è stata d'aiuto? Nel senso che molto spesso non capivano la difficoltà di questo sport e non mi davano la possibilità di alternarlo con lo studio. Però io, nonostante tutto, sono riuscito ad andare avanti. Ma fai molte assenze a scuola durante l'anno? No, la maggior parte sono giustificate dalla nazionale, quindi non ne faccio molte. Giustificate, però sei costretto a fare qualche assenza durante l'anno? Sì, molto spesso sono costretto a fare alcune assenze. Ma a questo punto cosa vuoi fare da grande? Vuoi continuare ovviamente a fare judo? Allora, praticamente vorrei entrare a far parte di un gruppo sportivo. Sì. Ad esempio mio fratello adesso fa parte delle Fiamme Azzurre, quindi si allena e prende lo stipendio. Quindi l'obiettivo è di far diventare un lavoro vero e proprio, sì, questa sì, cosa qua. Sì, sì, anche perché se entrerò a far parte di un gruppo sportivo potrò continuare il judo fino alla fine della mia carriera. E questa possibilità è reale, cioè nel senso, sì, sì, beh, con i risultati che hai raggiunto adesso. Con penso i risultati che ho raggiunto dovrebbe essere reale. Che società sono? Società sempre legate ad esempio, alla polizia? Fiamme Oro, Fiamme Gialle, Fiamme Azzurre, Carabinieri, cioè sono tutti i vari gruppi sportivi che appunto formano la squadra. Gruppi sportivi però privati non ce ne sono, cioè investitori privati su questo? No. Sponsor se ne trovano? Per adesso ancora nulla, cioè ancora nulla per adesso, spero per il futuro. E poi dopo, da grande come ti immagini? Cioè una volta che non sarai più nell'età per combattere? Vorrei diventare un insegnante anche io di judo, magari un tecnico della nazionale. Ma c'è qualcosa che va oltre il judo che ti interessa? Cioè, non so, una cosa, un sogno, viaggiare di più oppure... Vabbè, anche viaggiare penso che anche è un sogno anche per me adesso. Diciamo che io sono sempre in giro, quindi... Ci riesci a viaggiare? Ci riesco, quasi sempre. Complimenti! Grazie mille. Grazie Giovanni, grazie per essere stato con noi. Giovanni Esposito, 17 anni, ha vinto la medaglia d'oro di judo nella categoria cadetti ai mondiali di... dove erano? Non me lo ricordo, non ce l'ho qua l'articolo. Non importa. Ascoltatori, andiamo con chi andiamo? Leonardo da Milano, buonasera. Leonardo... Abbassi la radio che sentiamo un ritorno. No, ma non ci sente proprio Leonardo. Ha posato il telefono lì e adesso sta facendo qualcos'altro. Pino, da Milano. Buonasera Pino, sono Pino. Ascolti, signor Alessio. Sì. Era un po' che vorrei chiamare, ho chiamato. Vorrei che un parere da lei, per una mia stravagante opinione che mi prono in testa da molto sentiamo tempo. Già mi metto le mani nei capelli perché... No, cosa... la sua risposta sarà sicuramente a mio favore. Le spiego perché. Sì. Io sostengo da tempo che questo paese non potrà mai cambiare. Io ho 76 anni, sì. Oramai ho gettato la spugna. No, le non bisogna mai gettare la spugna. No, ma se mi fa finire lei capirà, sì, il mio pensiero che è anche legato a una speranza. Sì. Cioè, come disse, credo, non dirò sbagliare, Elio Faiano nel Novecento, sì, disse che il moralista critica il politico, il privilegiato, finché non prende il suo posto. Ora, io aggiungo che invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, non so se è chiaro questo, è chiarissimo oppure no. Cioè il penalizzato reclama, piange finché non prende un posto di privilegio, poi lo prende, lo mette in tasca e ti saluto amico, questo è il mio pensiero di questa Italia che non potrà mai cambiare, sono pessimista, lo dico, sono sincero. Però ha detto che c'era un barlume di speranza in tutto questo, qual era? Della sua risposta. No, vuole che io le dia speranza, Sotto spero, però sono molto pessimista, questo è il mio pensiero. Lei è d'accordo che il privilegiato ha ragione? Cioè, non so se sono stato chiaro, signor. Sì, è chiarissimo. Uno critica e fa il moralista fin tanto che non acquisisce una posizione ambita e poi dopo diventa corrotto o diciamo si adagia nella situazione di privilegio raggiunta come quelli che prima criticava. Ma io non credo che sia così. Ognuno di noi sa qual è il discrimine, ha una schiena più o meno dritta, ha una morale. Io credo che la maggior parte di noi, restando in Italia, siano persone che hanno anche questa morale, per colpa di qualcuno, si dice, non si fa credito a nessuno. Questo è un po' il male, secondo me. Non lo vedo così generalizzato come dice lei, Pino. Va bene, non so se le ho dato speranza abbastanza. Ma non speriamo, credo. Speriamo, anche se ormai è un'età che poco importa. Scusi, Pino, quello che arriverà è tutto di positivo. Lei ha figli? No, sono senza figli. Che lavoro ha fatto nella vita? Io ho fatto il tecnico TV e ultimamente ho fatto un po' di comparsate in vari film con alcuni registi, attori. Ma la fanno anche parlare, perché la parlantina non le manca. Sì, io ho lavorato moltissimo con Marcello Capatonda, Maccio, ultimamente. Fatto numerosi passaggi su internet, se non una marea, che mi diverto più che altro, perché il guadagno è molto relativo, però mi diverto moltissimo, questo è il concetto. Bravo. Capisce? Però sono così, sono legato un po' io sono un assertore delle regole, dico l'ultima cosa e poi smetto. Sì. Quando sento dire mancano i controlli, io mi incazzo, scusi la parola, cioè io non ho bisogno del vigile per passare col rosso, porca miseria, e ora di finire questa storia dei controlli, ci vuole la coscienza, bisogna farsi. Pino, io capisco il suo integrismo più che integralismo, però chi ha la coscienza un po' più bassa della sua, un bel controllo ogni tanto aiuta, no? La faccio sorridere per l'ultima volta. Sì. Il mio epitafio è già scritto e dal notaio. E cosa c'è scritto? Pino, morto malato di utopia. Meraviglioso, secondo me. Beh sì, è bello, insomma, è bello. Pino, in bocca al lupo, complimenti. Io sono nella semionda negativa, caro Alessio. Sono nella semionda negativa, ho 76 Cos'è anni. Cos'è la semionda negativa? Sperare? Ma è sempre stato così, anche da giovane? Sì, sono un polemico per natura, ma mi piace la polemica forte. Sono un combattivo. Quando sento qualcuno che dice una puttanata, io mi incazzo come una bestia. Mi chiamano lo sgarbi dei poveri nel mio rione. Pino, complimenti. Dico complimenti per l'energia anche che ci mette. Io dico sempre che ho due età. Quando mi dico, però scusi, Pino, perché chiama da Milano? Lei non è di Milano. No, io sono pugliese di origine, ma vivo sono di Cerignola. Sì. Io vivo a Milano dal 1949, perciò sono 67 anni che abito a Milano. Io sono nato in un paese che ha dato i Natali delle persone straordinarie. Chi? Uno è Zingarelli e non si può dire nulla. Il secondo, anche se qualcuno non lo ha mai amato, ma Di Vittorio. Io da bambino ho avuto la fortuna di essere accarezzato il capo da Giuseppe Di Vittorio. Di conseguenza è un paese molta agricoltura, molti contadini. Oggi è molto florida, altrimenti non sarei qua in questo momento. Grazie. Capisce? Pino, buona serata. Dobbiamo chiudere. Di nuovo salve, auguri a lei. A presto. Pino, ci deve richiamare sicuramente. Ci deve richiamare, deve tornare in trasmissione perché ha una forza incredibile. Allora, niente, tutto. Ci risentiamo domani sera dalle 18 alle 20:30 con Si può fare. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia, ma anche Grazia Gala, Leonardo Siligato, Isotta Scenna in redazione. La pillola di Carlo Gabardini, non l'abbiamo fatta sentire, forse se ce la fai a metterla adesso possiamo provarci, se no Carlo Gabardini è con noi in diretta domani. Ciao a tutti da Alessio Maurizio, ciao!